È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Era sunto in vena de far sentimental la notte in sci serena, ma mi me senti mal. Te scrivi cara mamma su stupe resta qui el me mila el me chama visina ti. Mamma mia, mi sono lontano. Oh mamma mia, mi sono lontano. Ego la nostalgia del me Milan. Mi vorraria tornare domani. Il giuri curaria col carima. Senti il mio bel dialetto. C'è solo l'imbarazzo, per scegliere le cose da mandare in onda su Berlusconi stasera, caro Parenzo, Bellissimo, canta meglio di come governa, diciamolo subito. Vabbè, subito questa cosa. Diciamo subito così. 1-2-1-2, subito. Ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? È un grande uomo di spettacolo, uno showman, un politico a tutto tondo, un politico moderno, contemporaneo, cioè non è di quei politici bolzi, imbolziti, che recitano sempre lo stesso copione. C'è un politico moderno. Moderno, contemporaneo, bellissimo. Dalle molteplici attività e dunque anche dalle molteplici capacità. E anche dalle molteplici incapacità, ma non è di questo che vogliamo parlare. No, vogliamo parlare. 18:34, questa è la zanzara, 800-24-0024. Così, bravo, no? Sei stato bravo ad annunciare questa cosa. Tu hai una parte omosessuale? Come? Querela per diffamazione subito. Hai una parte omosessuale? Non credo che sia lo 0,01%. Vabbè, senti questa di Berlusconi, che non è male però, perché è una battuta. Tu ce l'hai? Ma tutti noi abbiamo una parte omosessuale, sì, noi stessi. Però Berlusconi dice proprio in pubblico, esplicitamente, sì, che la sua parte omosessuale, che tutti noi abbiamo, secondo Berlusconi, che evidentemente ha studiato trattati di psichiatria, è lesbica. Senti, battuta, Quel signore si è accorto di avere, come tutti noi, un 25% di omosessualità. Solo che io, dopo un approfondito esame, ho scoperto che la mia omosessualità è lesbica. Questo Berlusconi, in sintesi, cosa voleva dire? Che a lui piacciono le donne, è sempre il solito discorso e non cambia nulla, non è molto diverso. Non è molto diverso. Siamo alla parte soft di Berlusconi, di questa due giorni. Prima una convention del PDL al servizio degli italiani, ci sono miliardi di fondazioni, e poi per la presentazione della candidatura della Moratti a Milano. È sempre la parte soft, per cui rimanete lì. Poi viene la parte hard e non ci sono giochi di parole in queste cose, non c'è una ironia, ve lo giuro, ve lo assicuro. Dice Berlusconi che la sua potenza è un'altra, c'è sempre il rimando sessuale. Quando dicono che io, essendo Presidente del Consiglio dei Ministri, sono l'uomo più potente d'Italia, dicono una bugia, a meno che non si riferiscono ad altre potenze che lasciamo perdere. Mi è venuta... E alla mia età ho deciso di dire tutto ciò che mi passa per la mente e che corrisponde al vero. Però per un nuovo politico dire tutto quello che passa per la mente, a parte che non è mai così, perché non è che si dice sempre tutto, è evidente, no? No, infatti. Però per un nuovo politico il fatto io dico tutto quello che mi passa per la mente è esattamente l'opposto, ma Berlusconi è l'opposto di un qualsiasi leader politico. Vabbè. Mi accusano di un delirio geriatrico. Sentite, abbiamo trovato proprio delle perline particolari all'interno di due discorsi fiume che hanno provocato miliardi di polemiche. Fra poco arriveranno alla parte tosta, cioè alla parte forte. In questi giorni la sinistra si è passata la parola d'ordine: Berlusconi è vecchio e da gerontocomio. Ha un delirio, è afflitto da delirio geriatrico. Dopo questo nostro abbraccio di stamattina diranno: è vero, pensate che invece di parlare politica si è messo a cantare. Rivedi la ringhiera. Vabbè, la canzone di prima, quella che stavate sentendo, era Nostalgia di Milan, cantata da Berlusconi, una performance straordinaria durante la candidatura della Moratti. Arriviamo ad una questione molto seria, che è questa sorta di patto tra fine e la magistratura. Io credo che qui Berlusconi in realtà parli di una questione politica, non è che pensa che c'è un patto scritto tra Fini e la magistratura italiana per abbattere Berlusconi, oppure la magistratura italiana ostile a Berlusconi. È una valutazione politica, a mio parere abbastanza infondata, non lo so, comunque insomma credo che faccia riferimento tra l'altro ad una cosa invece di sostanza, cioè il fatto che nel passato Fini aveva delle posizioni vicine a quelle di Berlusconi per quello che riguarda l'atteggiamento nei confronti della magistratura, e adesso invece è sempre dalla parte dei magistrati. Credo, perché poi è difficile interpretare Berlusconi, non voglio fare qui l'esegeta, che Berlusconi si riferisca a questo, non a un patto scritto tra Fini e Cascini o tra Fini e Palamara. Insomma, questo non credo che nessuno possa pensarlo, perché no, ci sono persone che dicono porti fuori le prove. Ma non è un... ma il giornale oggi parla di un testimone. Sì, bisogna poi chiedere a Sherlock Sallusti. Vabbè, sentiamo questa cosa intanto. Vabbè, per carità. Fini è venuto fuori chiaro, aveva un patto che mi è stato raccontato parola per parola da uno dei giudici che aveva partecipato alle discussioni con lui da parte del sindacato dei giudici. Aveva un patto che è un pactum sceleris, sicuramente, che diceva: voi mi proteggete, a me e ai miei uomini, voi perseguite Berlusconi, io vi garantisco che fin quando io sono qui nel Popolo della Libertà e faccio il Presidente della Camera non passerà nessuna riforma che vi dispiaccia. Anzi, una volta fatto fuori Berlusconi ci siederemo a un tavolo e faremo tutte le riforme che vi converranno, o nessuna riforma se questo vi converrà di più. Il patto tra Fini e una, e non so chi, la NM, non so che cosa, va bene. Un magistrato addirittura avrebbe parlato. Sì, un magistrato avrebbe detto, eccetera, patto. Questa mattina qui alla D24 il ministro Rotondi ha detto che prima o poi i nomi verranno fuori. Però c'è anche la questione del manifesto delle BR, no? Le BR. Una storia terribile, incresciosa, terribile, triste, drammatica. Drammatica, adesso non esageriamo, drammatica. Drammatica. Le BR fuori dalle procure, no? Ecco. Le BR fuori dalle procure. È intervenuto persino il Presidente della Repubblica Napolitano. Beh, persino, perché dici persino? No, persino nel senso perché la questione è seria, insomma, non è... Ah, ecco. Con una condanna esplicita di questi manifesti, le BR fuori dalla procura, l'autore, come lo sapete, è stato invitato a sospendersi perché è candidato con la Moratti. In realtà per adesso non ne vuole sapere, nel pomeriggio ci potrebbe essere qualche evoluzione. Gabriella Carlucci, buonasera. Ciao, buonasera. Come a tutti sta? Voi. Come sta, buonasera, signora Carlucci? Parenzo, che fai? Tu innanzitutto non c'è la Pasqua ebraica? Eh beh, certo, io sono a Siena, distaccato per la Zanzara, per seguire in diretta la Pasqua ebraica. Beh, per distaccato voi. Per la Zanzara, per seguire la Pasqua ebraica. Come? Era una scusa per trovare... No, però è vero, oggi e domani c'è questa Pasqua ebraica bellissima, tant'è che anche il grande Gad Lerner stasera non condurrà l'infedele, dice non frega niente a nessuno, però io do questa informazione anche a voi, per la radio. Sì, e infatti sulla 7 ci sarà la proiezione del film La Passione di Cristo, di Mel Gibson. Sì. Con Mentana, ecco, abbiamo fatto lo spottino della 7. Hai fatto la comunicazione per la 7. E io festeggerò la Pasqua ebraica. Vabbè, ma come questo mi pare corretto. E cosa c'è d'altro? C'è la Minetti che pare che abbia presentato delle pagine a sua difesa, sono 12 pagine. Una delle interpretazioni di queste 12 pagine è che erano Lele Mora e Fede a reclutare ragazze, dunque tutta una strategia difensiva in vista del processo. È un'intervista abbastanza clamorosa di Stefania Craxi al settimanale A, in cui dice: Silvio, basta barzellette, fai un passo indietro. Signora Carlucci, sono troppe eccessive le barzellette di Berlusconi? Ma guarda, le barzellette di Berlusconi sono sempre molto simpatiche, molto divertenti. Tutte. Quando lui invita a cena le persone, il rituale è sempre quello: lui racconta le barzellette, poi ci sono le canzoni, ma è un modo molto divertente per drammatizzare, anche perché normalmente, ad esempio, alle cene a cui ho partecipato io, che erano tutte cene comunque politiche, sempre, cene nelle quali si è parlato poi di politica, dei temi del momento, dei temi dell'attualità, della campagna elettorale imminente, di quello che si sarebbe dovuto fare. No, oppure le cene, anche quelle di Natale, per gli auguri, hanno sempre uno sfondo politico, per cui diciamo che c'è un intrattenimento iniziale per alleggerire la serata. Mm. Però lui le racconta anche in pubblico, davanti ai giornalisti, nei comizi, pubblico, eccetera. Questa è la sua natura, io lo conosco da tantissimi anni, lui è una persona così, non si trattiene, racconta molto bene barzellette, sa lei cantare, dice, molto bene, sì. A me diverte molto. Poi alcune, cioè, sono un po', non sono un po', sguaiate, un po' sboccate, signora Carlucci. No, però questo è l'uomo, questo è il suo cotè, lui è così e piace così. Ma lei non gliel'ha mai detto, scusi, signora Carlucci, lei che lo conosce da un po' di tempo, che è una donna di spettacolo, non le viene da dire qualche volta, presidente? Ma dirti una cosa che magari non piacerai molto. Io ho un figlio adolescente con tanti amici adolescenti. Per loro Berlusconi è un mito, perché dicono: ah, ma questo è simpaticissimo, è un modo, cioè è un politico che loro capiscono, parla una lingua che loro capiscono, racconta le barzellette e anche... No, mi scusi, mi faccia... I ragazzini lo ammirano, come la maggior parte degli italiani che vorrebbero essere come lui. Quanti italiani a 70 anni si sognano di andare con le donne dalla mattina alla sera? Pochissimi. No, ma si fermi. Carlucci, si fermi, perché lei ci sta dicendo delle cose in serie su cui, di fronte alle quali noi rimaniamo un po', non dico scioccati, ma pensierosi. Cioè, noi uomini di mondo, peraltro. Noi uomini assolutamente di mondo, cioè non persone così, che moralisti, non eccetera. Non bacchettoni, figuriamoci. Però per quelli che lo amano è un mito e sta conquistando anche i giovani da questo punto di vista. Lei dice, poi ripeto, spesso le sue barzellette sono, ma non sempre, voi vi appuntate e trascrivete le barzellette pesanti. Poi ma no, veramente noi tutte. No, ma sì, non è vero, ma voi trascrivete puntualmente quelle veramente... Ma non è che lo facciamo apposta, cioè no, sono le barzellette... Ma torniamo agli adolescenti, signora Carlucci, che era interessante... Aspetta un attimo, sennò se si sovrappongono le voci è un casino. Berlusconi racconta barzellette di tutti i tipi. Sì. Poi è chiaro che la memoria del cronista si fissa su quella più pesante di barzelletta, però lui ne racconta tantissime, ne sa... Io non so come faccia, ha veramente una testa... Me lo dica lei, come... Ah, una testa come un computer. Un computer, perché io non me la ricordo la barzelletta. Ma lei ha un'adorazione, lei ha un'adorazione infinita per Berlusconi. No, perché Berlusconi è una persona simpatica, coinvolgente. Sì. Poi, al di là di questa sua caratteristica umana, sì, è una persona che sa di tutto. Tu gli puoi parlare di qualunque di tutto. Argomento. Sì, sì. Di tutto. Quando io sono entrata in Forza Italia nel 96... Sono entrata in Forza Italia in seguito ad una conversazione avvenuta ad una cena elettorale nella quale, siccome io avevo abitato e studiato negli Stati Uniti, gli avevo raccontato il sistema di finanziamento dello spettacolo e delle attività culturali negli Stati Uniti. E lui lo sapeva? E lui sapeva già tutto. Lui lo sapeva e io gli ho detto: un genio, ma è un peccato un che in Italia questo non si faccia. E lui ha detto: benissimo, occupatene tu. E infatti, infatti si è visto come è stato introdotto. Nel 96 non eravamo al governo. Mamma mia, mi sull'unta ego la nostalgia del me Milan, mi vorraria tornare domani, il giuri curaria col carimà. Beh, che bravo Parenzo, però, dai, su, ammettilo un po'. Ammetti, signora Carlucci, quanto è bravo in questa interpretazione? Non trovate un altro uomo politico così versatile, non esiste. Non esiste, no, non esiste. Speriamo che vada a cantarle. Un attimo, no, in due no. Signora Carlucci, che dici? Allora, io trovo Berlusconi estremamente simpatico. È una persona che sa mettere al proprio agio chiunque sia il suo interlocutore. Sì. Ripeto, ha una carica di umanità, di simpatia. Dove lo troviamo, dice? Dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Nel suo DNA. Poi, come tutti, ha i suoi difetti, però ripeto... Sì, per esempio, me ne dica uno. Nei suoi difetti ha che dovrebbe essere più morigerato nelle sue frequentazioni... Lei dice, troppe donne. Solo questo è l'unico difetto. Cioè, resto... morigerato in che senso? Cioè, troppe... Cioè, no, troppa allora, carica sessuale. Non è vero, ha raccontato come si svolgono queste serate. Lei ci crede, lei ci crede. Un uomo di 74 anni che ha avuto anche l'operazione che ha avuto, non è che possa. Però mi scusi, è lo stesso Berlusconi che dice che ha una potenza pazzesca. È lui che lo dice. Cioè, lo dice perché vuole accrescere il suo mito di superuomo, non avete capito? Dopodiché, lui si circonda di tanta gente perché lui è vero. Al di là delle cene politiche, preferisce portare a queste cene, far partecipare a queste cene anche persone di mondi diversi, come appunto il mondo dello spettacolo. Forse invece di prenderne 30 insieme basterebbero 2-3, punto. Ah, cioè, ho capito. Per allietare la serata, non per il bunga bunga di cui poi grazie tanto. No, allora, meglio, cioè, questo è interessante, cioè invece di 30 lei dice la signora Carlucci, deputata del PDL 2-3. Vabbè, per quello che è, per quello che è, poi insomma, per allietare la serata. Vabbè, ma noi non entriamo nel dettaglio, per quello che è, per allietare la serata, poi non è che stiamo dicendo bunga bunga, sesso, orgio, cose del genere. Per quello che è, poi magari può capitare, cioè lei lo esclude, esclude che nelle serate di Berlusconi si faccia del sesso, lo esclude, ma non è un crimine, cioè non è un crimine. Allora, io lo escludo soprattutto se, se diventa un aspetto pubblico, nel senso che il bunga bunga è una roba fatta di fronte a tutti. Questo io lo escludo in una maniera più assoluta. Cioè lei esclude che Berlusconi da questo punto di vista sia uno che un po', ma, guarda, un po' voyeur, un po' voyeur. Viene dipinto appunto come, come Nerone, quello che faceva le orse, non è così. Io credo che se, se lui ha dei rapporti ce li ha chiuso della sua stanza, quindi... Cioè regolari uno e uno, dice lei. Io penso proprio di sì. Io penso, quello che è stato raccontato sono delle, delle cose inverosimili che non hanno senso. Ripeto, io ho partecipato a tante serate che avevano comunque un aspetto divertente di musica, di racconto di barzellette, certo, ma che secondo me avevano un epilogo, se ce l'avevano, da solo lui con qualcuno, una. No, interessante una questo, Parenzo, perché è un intrattenimento pubblico di orge pubbliche, però non esiste. Però signora Carlucci, questo è interessante perché in realtà non c'è niente di male, non facciamo il bacchetto di Maurizio, non c'è niente di male a passare serate in cui magari poi si finisce a letto in 4-5, non è una cosa così, no? Ripeto, non sono di questo parere, penso proprio di no. No, lei lo considera immorale una cosa del genere? No, non lo considero immorale, però non era quello il risvolto finale delle serate di Berlusconi. Ma spieghiamolo, perché ci ascolta, che non esiste il reato di orgia, no? Esiste il reato di prostituzione minorile o di sfruttamento. Vabbè, quello è un altro discorso. Che non esiste, no. Che abbiamo capito che non c'è. Vabbè, quello vedremo. Pure secondo me non esiste, lei lo sa bene. Lasciamo perdere la questione del reato. Però vorrei tornare. Io credo che queste serate, che secondo la vulgata finivano in orge. In orge? Non era così. Erano delle serate normali, piacevoli, divertenti. E ripeto, semmai c'è stato un finale. Semmai c'è stato il finale, è stato tirato fra Berlusconi e una sua amica. È una, però una che magari poi... Cioè, lei ha la storia della fidanzata di Berlusconi, ci crede? Ma perché no? Io sono come perché no? Uno è fidanzato, allora, non è fidanzato, non è che... Berlusconi è un uomo solo, non ha la moglie, i figli sono tutti grandi, cresciuti, hanno le loro famiglie. Quindi, secondo me, è una persona sola, anche dal punto di vista affettivo. Quindi, perché non dovrebbe avere una fidanzata? No, ma la può avere tranquillamente. Ma perché non si palesa, per esempio? Berlusconi ha detto una volta, figuriamoci, io che ho una fidanzata, se poteva consentire che di essere circondato da tante... Io credo che a nessuna donna piaccia finire un frullatore mediatico come quello che inevitabilmente... Ah, dice lei per questo che non si palesa. Per forza, perché chiunque si accosti a Berlusconi, sicuramente si è dichiarata o presentato ufficialmente una fidanzata, e la fine. Non può più neanche andare a fare la presa posto a casa perché questa verrebbe spiata da obiettivi grandi come dei cannoni. Quindi io credo che forse, se veramente una fidanzata, fa bene a tenerla nascosta. Non si palesa per questo, certo. Permetta. Sì, lei l'ha mai... Ma a me la fidanzata di Berlusconi sembra come Fantomas. Lei l'ha mai vista? Ha idea di chi sia questa signorina, signora? No, perché io ho partecipato e partecipo a riunioni, che hanno politiche, sempre avuto... Politiche. Esatto, con obiettivo la politica. Sempre. Non abbiamo mai parlato, tranne, ripeto, i momenti di intrattenimento ci sono, sono molto piacevoli, nei quali appunto Berlusconi racconta le barzellette o racconta eccetera. Incontri con leader di altri paesi del mondo, con aspetti che vanno al di là della politica, però non siamo mai scesi. Però oggi ho ricevuto un messaggio, signora Carlucci, che recita così: la fidanzata c'è, bella, elegante, giovane, ma non è troppo bella, da una persona insomma di cui mi fido, Oggi ma ho ricevuto penso di sì, perché lei pensa di sì, benissimo. Perché un uomo della sua età debba rimanere da solo. Credo che comunque una persona che stia accanto a Berlusconi fa bene a restare il più possibile nascosta, coperto. Dal momento in cui diventa di dominio pubblico questa persona, ha finito di vivere. Sì, certo. Senta, una cosa, signora Carlucci, ma lei prima ha detto, no, Parenzo, dico, i miei figli adolescenti hanno il mito di Berlusconi. Certo, addirittura. Hanno il mito di Berlusconi. Ecco, sì, questo punto. Cioè, che in che senso il mito? Il mito come anche per le barzellette, per questa sua carica sessuale? I ragazzi di oggi sanno tutto, perché con internet vieni a conoscenza di tutto, il passato, il presente, qualunque cosa. Loro quanti anni hanno? Sono giovani, 14-15 anni. Già col mito di Berlusconi a 14-15 anni? Sì, perché lo vedono come una persona che ha costruito dal nulla un impero, sì, che è riuscito, ecco, a far diventare il Milan, quando lui l'ha prese veniva dalla Serie B, è diventato una delle squadre più importanti del mondo, su questo non ci piove. Sta vincendo quello, ha fatto un partito politico ed è diventato il primo partito in Italia, ha vinto, sì, più volte le elezioni. Insomma, è una persona che dal punto di vista professionale, di tutte le sue iniziative, e dunque per questo lo vedono come un mito, ma anche, poi quando dicono, poi dicono, è anche uno che ha 74 anni, c'ha tutte queste donne, loro non vanno a sottilizzare lo vedono come uno che ha 74 anni, l'età dei loro nonni, e ancora si dà da fare, ancora si dà da fare, quindi per i ragazzini è un mito. Parenzo, vedi, quando io ospite la signora Carlucci, che oltre ad essere deputato del PDL è il sindaco di una città che si chiama Margherita di Savoia, ricordiamolo sempre, Margherita, certo, di Savoia. Bravo. In provincia di? Dove io ti ho invitato, caro Giuseppe, tu non sei ancora venuto. No, hai ragione. Perché sono venire tutti e due, facciamo una bella trasmissione alla Zanzara lì dalla Puglia. È un posto fondamentale, abbiamo un mare bellissimo. Io adesso ho fatto il gemellaggio fra Margherita di Savoia e Miami, pure le mie spiagge non hanno nulla da invidiare a Miami. Ma il sindaco di Miami lo sa questa cosa? E abbiamo fatto un accordo, certo. Ah, con l'accordo del sindaco di Miami, certo. Eccoci qua, 19:16, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, caro Parenzo. Ecco. Un po' bloccato nella mente e nel corpo dal Capodanno ebraico, però qui con noi. No, come Capodanno, la Pasqua. Sì, ebraica, scusa, la Pasqua ebraica. Abbi pazienza. No, perché va benissimo. Perdona la mia ignoranza nonostante il mio grandissimo e profondo rispetto per il popolo israeliano e anche non solo per il popolo, come dicevo, qualcuno, anche per lo Stato di Israele, l'unica vera democrazia in Medio Oriente, questo bisogna sempre. Un bacio in fronte, guarda. Sempre a ribadirlo. E poi ti racconto una cosa che è accaduta a Perugia durante il festival del giornalismo, che riguarda Israele, quella vicenda del pacifista presunto tale, anzi non pacifista, no, quando sei partito. Bene, andiamo a sentire sempre attraverso il nostro annunciatore speciale, la nostra annunciatrice, che cosa? I titoli del TG3. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Napolitano, ignobile provocazione, i manifesti che paragonano i giudici alle BR sulla giustizia, polemica a rischio di pericolosa degenerazione. 3 indagati per i manifesti anti-PM, la Moratti ieri smentita, torna a chiedere che Lassini ritiri la candidatura al comune. Fini incontro l'ANM, la magistratura pilastro della legalità, Palamara, patto scellerato, Berlusconi alle prove o è calunnia? Cresce l'attenzione sulle prossime amministrative, sono un test nazionale per il governo, dice Berlusconi, occhi puntati su Milano. Caso Rubi, Nicole Minetti accusata di prostituzione minorile, scarica Emilio Fedel e Le Mora, erano loro a portare le ragazze. Conti pubblici americani nel mirino di Standard & Poor's, giù Wall Street, tremano le borse europee, l'oro vola ad un nuovo record. Caso Parmalat, altra doccia fredda per i risparmiatori coinvolti nel crack, assolte le 4 banche accusate di aggiotaggio. Mi piacciono le donne, le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde, le top model con due bombe, le donne, le donne. Quel signore si è accorto di avere come tutti noi un 25% di omosessualità. Solo che io dopo un approfondito esame ho scoperto che la mia omosessualità è lesbica. E il contrasto tra la musica di Fabi Fibra e Berlusconi è quello che è. Sarò fissato, però la mia potenza è un'altra, a me non mi fa ridere questa cosa, anche perché, come sai, Parenzo, quando uno proclama i 420 di essere un uomo sessualmente potente, poi alla fine la delusione è dietro l'angolo. E scusatio non petita. Quando perché dicono uno deve che sempre io, dire, ma no, perché uno deve continuare a dire. Aspetta, fai parlare più Berlusconi. Potente d'Italia, dicono una bugia. a meno che non si riferiscono ad altre potenze che lasciamo perdere. Mi è venuta e alla mia età ho deciso di dire tutto ciò che mi passa per la mente e che corrisponde al vero. Che cosa ne pensate di Fabri Fibra? Ma io più che pensare non penso niente, cioè non mi interessa. Ma non è che penso che... Bene, bene, 1919 800 24 00 24. Questa è la zanzara. Questa è la zanzara. La cellula rossa. La cellula rossa, giuro sui figli. Le solite cose di Berlusconi. Sono tutti costruiti processi su fatti inesistenti. L'ho giurato sui 5 figli che amo, sui 6 nipoti che amo. Non c'è un solo fatto su cui questi PM, questa cellula di PM, questa cellula rossa dei PM del Palazzo di Giustizia hanno costruito tutti questi 31 processi che sia vicino alla realtà. Bene, bene, andiamo con Di Pietro, sigla! Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno, che mi dà spazio. Come non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione. Scusate. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Allora, sentiamo un Di Pietro dalla farsa berlusconiana al dramma mussoliniano. Io sono orgoglioso di quello che ho fatto come opposizione, perché sto creando lo strumento democratico per liberarci anzitempo di Berlusconi, perché solo lasci là si passa dalla farsa berlusconiana al dramma mussoliniano. Berlusconi come il marchese del Grillo, questa è nuova, eh? Il referendum è l'ultima arma democratica prima della rivolta sociale, perché se non si trova una soluzione in cui il cittadino possa smascherare questo dato di fatto, lui come il marchese del Grillo dice semplicemente questo: io sono stato votato dai cittadini italiani e posso fare quello che mi pare e piace. Io dico, andiamo vedo a verificare. Vedo che si è ripulito la bocca rispetto alle battute del marchese del Grillo, che parlava un po' più rozzo. Certamente. Bravo, grazie. Con un po' di tempo. Sì. Bene, a proposito di Grillo però, il Fatto Quotidiano l'ha intercettato durante una specie di comizio, non so come chiamarlo, a Milano, piazza San Babila. Sentite, il linguaggio è sempre la solita cosa anche qui. Sì, tutti marchi. Sul pensionato senza prostata ci ho messo una croce, cioè su Berlusconi. Io ho messo una croce su quello metro, quel pensionato di 74 anni senza prostata, basta. Il processo, la giustizia, cominciamo a vedere un po'. Il senso della giustizia che non ce l'ha più. Poi sui giornali, naturalmente, compreso il Fatto Quotidiano, dice: sono medium, parlano con gente morta. È sempre la solita cosa. Ma perché uno ripete sempre le stesse cose? Perché ha finito il copione, ha finito. È sempre la stessa cosa. I giornali sono morti pure loro, naturalmente. Ma solo l'iPad, c'è l'iPad, solo l'iPad. No, veramente non so se l'iPad non l'ha detto, però. Vedrai che adesso impazzisce con l'iPad, le nuove tecnologie, Senti. Medium parlano con gente morta. Non mi vogliono perché sono morti, non abbiamo comunicazione, sono finiti, li tenete in vita voi. Tu la prima domanda che mi hai fatto qui è di quel nano, sempre, li tenete in vita voi, sono morti. Non siete media voi, siete dei medium che fate parlare dall'aldilà della gente scomparsa, hai capito? Qui abbiamo della vita, abbiamo dei sentimenti, abbiamo dei programmi. La vita, i sentimenti, i programmi. E poi c'è il programma socialista di Grillo: azzerare tutto, produrre autostrade informatiche. Sentite, c'è un programma come ai tempi della pianificazione, no? Cioè non si devono più produrre automobili, dice, non si devono più produrre. Ci vuole una pianificazione mondiale in cui non si producono certe cose e se ne producono altre. Questa è l'idea di libero mercato, se proprio uno vuole prendere seriamente Beppe Grillo, via. Bisogna ripartire dal basso, azzerare tutta questa classe politica, classe economica, capire dove andiamo, che cosa produrre, le industrie, cosa devono produrre da qua a 20 anni, non automobili, non cemento, ma altre cose, informazioni, bit, autostrade informatiche. Hai capito, sì? Bisogna programmare tutto, Programmare tutto a livello mondiale, globale. Sì, le macchine di automobili, le fabbriche automobili, via, scomparire. Dunque, Marchionne, via, ma via tutti i produttori di automobili, via. Poi che cosa ha detto? Oltre i produttori di automobili, non mi ricordo che cosa. Beh, così. Come? Come, scusa? Bisogna metterlo a capo del WTO per Grillo. Ma che WTO? Al massimo a capo della, di quelli che erano i direttori della pianificazione socialista, che per fortuna non esistono più, esistono solo in Corea del Nord e poi gli altri posti, ma ormai insomma hanno poco da programmare lì. Al massimo programmano la distribuzione del cibo agli affamati locali, agli affamati che ancora alcuni regimi riescono a creare. Stefano dalla provincia di Bergamo, buonasera. Buonasera a tutti. Dica. Io volevo tirare un po' l'orecchio a Parenzo, perché veramente... Tiri l'orecchio a Parenzo, non si preoccupi. Intanto la signora Carlucci si è imbarcata su un aereo, però ha detto che un volo dura 40 minuti, quando scende magari la ribecchiamo, eh. Non ci sfugge stasera, signora Carlucci, con i figli innamorati di Berlusconi, figli 14-15 anni innamorati di Berlusconi, soprattutto per il fatto che Berlusconi a 70 anni ancora, insomma, no, si dà da fare. Questo ha detto, non è che l'ho detto io, Parenzo, l'ha detto la signora Carlucci, onorevole Gabriella Carlucci, cara amica. È un mito per i suoi figli, un nonnetto arzillo. Per carità, la conosco, però insomma, quando uno dice delle cose un po' esagerate, le dice grosse. Detto questo, poi ognuno è libero di avere i miti che vuole, cioè, o no? Certo. Stefano, provincia... carità, Stefano, allora. Eccoci qua. In riferimento al discorso del manifesto sulle BR, che è assolutamente un fatto... Fra poco, annuncio, ma non voglio anticipare niente, qui in studio, qua a Milano, caro Parenzo, dove tu non sei oggi per il Capodanno, questo Capodanno, per la Pasqua ebraica, ci sarà l'uomo al centro di tutte le discussioni di questi giorni. Sì, ebbene sì. Ma si deve nascondere. Adesso lascia bere. Metti che sta ascoltando adesso la radio, sta venendo qui. Capito, magari fa marcia indietro e torna perché ha paura di essere aggredito da te. Studio. Signor Roberto Lassini. Roberto Lassini, che ha appena annunciato all'Ansa, tra l'altro, che non rinuncia alla candidatura nonostante quello che ha detto Napolitano, nonostante quello che ha detto il suo, diciamo, referente dal punto di vista del partito, cioè il coordinatore lombardo del partito, Mario Mantovani. Quindi rimane in lista per sembra Milano, di sì, però adesso glielo chiederemo se viene qui di fronte a me, voglio vedere com'è fatto. Prego, Stefano. Eccoci qua. Stavo dicendo che è un fatto assolutamente da contestare il manifesto sulle BR, perché a me in generale le esagerazioni non piacciono mai, però allo stesso modo, così come si parla in maniera pomposa stracciandosi le vesti per la magistratura sulle indagini, ok, dovrebbe farlo anche quando c'è, comunque siamo da ormai quasi 20 anni che siamo in un regime di, come lo chiamava Cossiga, la repubblica giudiziaria. Sì. Mi sembra una cosa assolutamente evidente il fatto che siamo in una situazione in cui la magistratura ha preso molto molto più potere rispetto a quello che è l'esecutivo. No, ma Stefano, ma uno può anche ragionare in questo modo, per carità, però da qui a... Che succede qua? No, è mia moglie che in macchina è un po' agitata. No, io sono in ufficio io adesso. No, ma lei non c'entra niente, Stefano. No, volevo dire che si può fare qualsiasi ragionamento sulla magistratura, quello che è diventata, le azioni della magistratura, perché vanno bene tutti i ragionamenti, ma la frase via le BR dalle procure, ecco, questo è interessante capire da dove viene, e soprattutto il riferimento alle BR, perché se uno avesse detto via gli estremisti dalle procure, dice vabbè, insomma... Si può discutere. Però siamo in una, ormai da 20 anni si parla della mafia all'interno dell'esecutivo, del potere legislativo, e nessuno si straccia le vesti però per questa cosa. Mentre quando si parla della magistratura, ogni volta che ci sono queste cose che non mi piacciono, però alla stessa maniera mi piacerebbe che ci si stracciasse le vesti anche per l'altra, gli altri due poteri dello Stato, che nell'ultimo ventennio ormai hanno perso di credibilità in una maniera folle, per colpa senz'altro, non per colpa soltanto della magistratura, perché anche il potere legislativo e quello esecutivo ci ha messo del loro, però è indubbio che ci sia una disparità da questo punto di vista. Va bene, ho capito, Stefano, grazie. Angelo da Roma, buonasera. Pronto? Dica, Angelo. Allora, volevo provare a fare dopo certo una presentazione iniziale della trasmissione è un po' difficile, però vorrei provare a fare questo discorso che riguarda il degrado culturale che c'è oggi nel paese. E legato a questo mi sembra che veramente chi la spara più grossa fa di più la notizia. quindi rispetto a venerdì e al discorso appunto dell'attacco al della contestazione all'articolo di Aso Rosa, io spero che almeno, come dire, l'intelligenza degli uomini di cultura di questo paese, invece di stare alla finestra, incominciano a scendere un po', come dire, di più in campo. Questo mi sembra che scendano anche troppo in campo, Angelo, abbia pazienza. Non si fanno mancare niente, non si fanno mancare niente. Non si sente il bisogno di uomini, come dice lei, di cultura, o presunti tali intellettuali che ogni giorno dicono la loro sulla situazione italiana. Almeno io non ne sento il bisogno, poi naturalmente sono liberi di dire quello che vogliono. E mi pare che non si facciano mancare nulla per quello che riguarda il regime e altre cose di questo tipo. O no? Però il punto... E qual è il punto, scusi? Qual è il punto? Forse, secondo me, è proprio questo. Ma perché non ha il coraggio di dire che il signor Aso Rosa ha detto la settimana scorsa una puttanata sesquipedale? Io dico al di là del merito. Non è al di là del merito, perché non è che bisogna fare tutta l'erba un fascio. Cioè, ha detto questa cosa e questa cosa è quello che... D'altra parte, sì, d'altra parte non c'è d'altra parte, non c'è benaltrismo. Ha detto una puntini puntini. Andiamo a sentire Michele da Bari. Buonasera. Buonasera, salve. Dica. Mi ricollego a ciò che diceva la signora Carlucci prima, riguardo a quello che Berlusconi per i giovani, un idolo. Non credo tanto sia così, perché comunque secondo me giovani... Diciamo che non c'è bisogno di dire che non è così in assoluto, lo sappiamo da soli, caro Michele. È una mia opinione, perché comunque sì, per carità, sono molto più informati tramite il web di quelle che sono tante informazioni che non traperano dai mezzi di comunicazione classici come telegiornali e giornali, quindi hanno un'idea molto più chiara di quella di quello che è il signor Berlusconi, di quello che fa, di quello che Anche qui è sbagliato questo ragionamento, ha un piccolo difetto, non è che quello che c'è sul web o in mezzi di informazione cosiddetti alternativi, come dice lei, è necessariamente più degno dei giornali o della televisione, Su questo non ci sono dubbi, però meno male. Secondo me i giovani hanno ventaglio di informazioni maggiore, più che altro il popolo della rete ha un ventaglio di informazioni maggiore. Il popolo della rete. Non si ferma a quello che sono i telegiornali o i giornali, quindi hanno sicuramente molte più... Lei dice, va bene, sì, bisogna vedere quindi come si usa. Quindi almeno arriviamo alla conclusione che non c'è il regime, almeno questo arriviamo a questa conclusione positiva. Grazie no? all'esistenza del popolo della rete e alla possibilità di informarsi sulla rete, sicuramente non c'è il regime, già questa è la prima conclusione, e poi bisogna vedere in cosa consiste questo popolo della rete, quali informazioni si vanno a pescare, dove le si vanno a pescare e che tipo di informazione si produce naturalmente. Va bene, ma questo evidentemente il signor Michele non lo sa. Andiamo a Roma da Bruno, buonasera. Buonasera signor Cruciani. Dica. Piacere di sentirla dopo circa un annetto. Bene, Bruno. Devo dire che non mi ricordavo, però va bene lo stesso. Beh, certo, logicamente lei ne sentirà di migliaia di Bruno, quindi. No, Bruno, no, magari no, migliaia, no, ma insomma. No, migliaia nel senso di Bruno, Giuseppe, Giovanni, era solo un mio inciso. Per carità, vada pure. Devo dire che lei mi sta simpatico, nonostante abbia scoperto che scrive anche su Panorama. Nonostante questo, per carità, è come secondo me, avere il marchio addosso dell'infamia. No, d'infamia no, però lei però, è un ragazzo insomma, sveglio. Infamia no, ma... No, posso dire questo, è un ragazzo sveglio. Secondo me lei deve essere stato picchiato da piccolo da qualcuno di sinistra, per cui per reazioni è portato a difendere anche Berlusconi. Sì, ma una difesa faccio strenua, infatti si è visto, una difesa strenua al massimo. Io comunque ho chiamato per raccontare un fatto che secondo me è emblematico di quello che succede in Italia. Non riguarda lei, ma riguarda il suo collega, diciamo che ha la trasmissione parallela alla sua, che lei può immaginare. Ma perché dobbiamo parlare di una trasmissione che è parallela alla mia? No, le voglio raccontare solo questo fatto. Mi racconti questo fatto, su. Mesi fa, in quella trasmissione, c'era una persona invitata che si è lasciata andare al fatto che stava parlando dei processi, del numero dei processi di Berlusconi, e raccontava che i processi erano circa 23-24. L'interlocutore, che era il signore che gestiva la trasmissione, che lei ben probabilmente ben conoscerà, l'ha interrotta dicendo: ma guarda, ma non è vero che i processi di Berlusconi sono 24, sono 107, perché l'ha detto lui direttamente in televisione, a parte che le sa che i processi a Berlusconi sono 16. Vabbè, adesso non entriamo nel merito, la cosa incredibile è che quando gli è stato contestato al signore perché i processi sono un numero inferiore di quello che lui aveva detto, sa come se ne è uscita questa persona? Ha detto: ma non è possibile che siano 16, non può essere così bugiardo da dire che sono 7. Capisce quello che voglio dire io? No, Bruno, lei ha perso 2 minuti del suo tempo per raccontarci questo episodio che riguarda un'altra trasmissione che va in onda su Radio 1. Io non so se si rende conto, io sono stato molto paziente, ma la dovrei picchiare, insomma, caro Bruno. Però, scusi, comunque, andiamo. Cioè, la cosa tragica è che una persona che si presuppone sia esperta, che dovrebbe leggere i giornali, va bene, ma perché non chiama, scusi, ma perché non gli scrive una mail o non lo chiama direttamente, perché ci interpella? No, perché è impossibile farseli passare se uno non è devoto del signor Silvio. E va bene, sarà devoto, non lo so, non mi interessa. Rivolga le sue proteste al signor, quello che, come si chiama, quello di Radio 1 che va in onda con la trasmissione, ma che ce ne frega a noi? No, ma è il simbolo, è il capire come siamo Berlusconi in se quello è un simbolo, se quello è un persona... simbolo, Bruno, siamo messi male. Scusi, a Bari fate l'aperitivo così presto voi? No, è a Roma, signore, non a Roma, è a Bari. A Roma fate l'aperitivo presto. Sì, ma vede, io le ho fatto questo esempio per far capire che ancora una persona si dovrebbe almeno informare essendo a un certo livello. Vabbè, che addirittura d'accordo si stupisce delle menzogne di Berlusconi. Ho capito, capisce? Bruno, d'accordo, abbiamo capito, però rivolga queste sue proteste via mail, via radio, non so come, al signore in questione. Che ce ne importa a noi? Cioè, non è un esempio di qualcosa? No, ma eh? Io volevo dire che... Vabbè, Nicola da Livorno, buonasera. Sì, buonasera. Senta, Cruciani, io l'ascolto vivamente ormai da tanto tempo, però io mi domando come mai mi sta facendo da 4-5 giorni tutto un bordello su questa cosa, l'esternazione di Azzur Rosa, quando... No, veramente stasera non abbiamo detto nulla, abbia pazienza. Insomma, ho acceso la radio prima, stavate parlando di Azzur Rosa. No, veramente non stavamo parlando di Azzur Rosa, abbiamo fatto una piccolissima cosa, molto breve su Azzur Rosa, ma per caso, per intervento di un ascoltatore, mica per nostra scelta precisa. Pronto? Sì, non era una scelta precisa, Nicola, era perché un ascoltatore aveva chiamato in causa gli intellettuali, eccetera, eccetera, Nicola. No, però vedo che... Non abbiamo parlato di Azzur Rosa stasera. No, ecco, meno male, spero che non sia il tema, perché lo era l'altra settimana. Ma non c'è nessun tema se lei segue questa trasmissione, non c'è un tema preciso. No, non lo so, perché francamente, ma di cacciate se ne dicono tante sì, ma infatti... dal Presidente del Consiglio. Sì, naturalmente succede sempre questo, uno dice una stupidaggine, bisogna ricordare pure quelle degli altri. Beh, no, non funziona così. Dico solo che voglio dire, non è neanche così stupida la cosa che ha detto Azzur Rosa, non è condivisibile, però non è così stupida. Benissimo, Nicola, dove si trova lei? Un movimento di protesta dal basso, sì, per mettere un freno. No, non ha detto questo veramente. Ma che dice? Ha detto che bisogna sospendere la democrazia. Scusi, Nicola, ascolti Parenzo un attimo. Ha detto Azzur Rosa, che ha detto una fesseria clamorosa, tanto quasi grave quanto quella del signore delle BR e dei giudici. Io dico, che farò arrabbiare i miei amici di sinistra stasera, ma la provocazione intellettuale di Azzur Rosa è quasi grave, non è così grave, ma quasi grave, se presa sul serio, quanto quella del signore che fa i manifesti delle BR, perché un intellettuale italiano, non un cretino, ma un intellettuale italiano. Spesso le due cose possono coincidere anche ogni tanto. Beh, sì, questo io però. Cioè, voglio dire, appunto, gli intellettuali più alla Pasolini che alla la Azzur Rosa, diciamo. Sì, abbiamo una storia di vabbè, insomma, Nicola, non ho capito. Allora... Cioè, io voglio dire che è condivisibile quanto dice la Azzur Rosa, detto male. È condivisibile, vabbè. Dire, Nicola, dove si trova lei? Sospendere la democrazia. È un problema di fondo, che c'è. Di le fondo. Persone non condividono l'attività del governo, degli ultimi momenti. C'è un malumore. In che zona si trova, caro Nicola? In che zona si trova lei e il malumore? Dove vi trovate? Noi ci troviamo nella città di Allegri, che ieri sera lei voleva far diventare comunista, ma non è comunista. Non ho detto questo. Stai tranquillo, guardi. Abbiamo poco Allegri tempo da perdere, amico mio. Dov'è che ormai si è schierato anche lui? Però non è quello il punto. Cioè, voglio dire, io mi trovo a Livorno. Le a dico Livorno, che... Sì. No, ma in che zona esattamente di Livorno? Venezia. Venezia, che è Venezia? Un corso Venezia? È un quartiere che si chiama Venezia. Ah, quartiere che si chiama Venezia. Molto bello, anzi la invito alla trattoria qui a mangiare. Molto, molto interessante. Dove si trova esattamente? In che zona di Livorno? Sud, nord? No, ah, sì, sì, guardi, ma non essendo, ecco, non ci sono arrivato ora. No, ma guardi che qui non è zona pedonale, non arrivano le ambulanze. Vabbè, no, non si preoccupi, che sono bravi. Tutti in zona pedonale arrivano. Sono bravi a trovare la strada, sono molto bravi. Sì, guardi, e sia sereno, che c'è anche una bella lettiga, domandi alla... C'è una bella lettiga pronta per lei. Comunque, ne faccio per due, perché siamo in due qui. Quindi no, però è lei che parla. Con l'altro signore che è con lei, o la signora non ha detto nulla. Titolare della trattoria da dove sto chiamando. No, il titolare della trattoria va sempre protetto, specie protetta. Non no, è quello di Azor Rosa, di quello che ha detto. Guardi che la rivoluzione non accade, stia pur tranquillo, non è che no, Azor ma Rosa... Guardi che Azor Rosa non voleva fare la rivoluzione, quella la voleva fare 30 anni fa, non voleva fare la rivoluzione Azor Rosa, voleva fare un'altra voleva cosa, un po' diversa, la democrazia è un po' diverso. Comunque, Nicola, voleva l'intervento di polizia e carabinieri per sospendere la democrazia contro il cattivo Berlusconi. La ringrazio, andiamo. Oh, ma chi ritroviamo stasera, caro Parenzo? Giovanni, il mitico in Belvito da Pisa. Caro Giovanni, Giovanni, come sta? Un saluto a lei e a Parenzo. Ma come mai? Oh, Giovanni, vabbè. Come mai? Come mai questa sorpresa dopo mesi di assenza? Che è successo? No, veramente ho telefonato qualche altra volta, ma lei, non, come si dice in gergo toscano, non mi ha mai caccato. Ah, così proprio, Così, secco. No, chiaro e tondo. Sempre con rispetto dell'autorità. Sempre con tutto il rispetto, assoluto. Civili. Cosa l'ha fatta in Belvire? Se l'ha fatta in Belvire qualcosa, signor Giovanni? Sì, sì, in Belvire. Ormai mi... Berlusconi, non mi dica Berlusconi perché è scontato. Sì, sì. No, ho capito. Lui si ripete, lei dice che Guido ripete sempre le stesse cose, ma un altro che ripete sempre le stesse cose è il Cavaliere. Cioè, ah, quello non c'è dubbio. Giustizia, ogni giorno lui attacca i magistrati. Ora, le sembra una cosa normale? Le sembra una cosa normale, Cruciani? Ogni giorno, cioè, abbiamo capito, ci sono dei magistrati rossi che lo adorano e che cercano di buttarlo in galera. Questo l'abbiamo capito, che ogni giorno lo dica, è una cosa normale secondo lei? Che ogni giorno lo dica, Giovanni, diciamo che c'è un piccolo particolare, che c'è la campagna elettorale, c'è il processo, una serie di processi in corso, come lei sa, insomma, ci sono questi due particolari. Anche prima della campagna elettorale sono diciamo che accento a questo tipo di linguaggio. Comunque, questa è la cosa che fa la magistratura, che farebbe belvire chiunque. Vabbè, ma quello diciamo... cosa invece, la sciocchezzola, è quella della scuola. Ma quale? La scuola? È quella della scuola, degli insegnanti di sinistra, che insegnerebbero la sinistra a dei giovani virgulti. Anche questa è una roba vecchia, anche questa è una roba vecchia. Ma è roba vecchia, sì, questa l'ha ripetuta già un'altra volta, però non tantissime. Ecco, ma io, ma lei lo scenario, se l'ha immaginato o se l'è fregato? Sì, bisognerebbe fregarsi di queste cose, siamo d'accordo. Lo scenario di che tipo? Sulla scuola, dice lei? Lo scenario è il seguente. Sì. Ci sono due genitori di destra, sì, che vorrebbero che il rampollo fosse educato, sì, diciamo a destra. E invece poi va in una scuola pubblica. Di sinistra. Sì. Ora io mi chiedo, e i genitori di sinistra? I genitori di sinistra, a cavallo, perché no, sono a cavallo, i genitori di sinistra, ammettiamo, seguendo questo ragionamento berlusconiano, sono a posto. No, perché i genitori sì sono a posto, ma lui sarebbe molto imbevito a sua volta. Lui chi? Se tutti cioè, e poi i genitori che sono uno di sinistra e uno di destra, oppure uno che se ne frega e uno di destra, uno che se ne frega e uno di sinistra. Cioè, capito che idea c'ha lui della, cioè c'ha il pensiero unico nella testa, che cosa vuole? Lei l'ha capito cosa vuole? No, tra l'altro questa cosa qua, artistico per, sì, cercare di non lo so, al solito di influenzare quei poveracci, e io insisto, imbecilli, cioè famosi senza bastone, cioè senza l'informazione, e basta, tutto lì, perché... No, però mi scusi un attimo, no? Io voglio dire una cosa. Tra l'altro, questa cosa degli insegnanti di sinistra, che è una cosa storica, oggettivamente, oggettivamente è così, ma facendo anche una verifica sulla propria esperienza personale, no? Sì, sì. però insomma, vista stupendo. Non hanno impedito a Berlusconi di vincere le elezioni la presenza di una scuola di una scuola in cui certamente l'insegnamento è stato per anni al centro delle attenzioni delle organizzazioni di sinistra, in cui gli insegnanti, anche i libri, sicuramente ci sono dei grandi sfondoni, quello che vogliamo, e ognuno dovrebbe essere libero di studiare su un manuale, qualsiasi manuale, soprattutto non ci dovrebbero essere, secondo me, manuali consigliati dai professori. Uno ne dovrebbe consigliare 10-15, poi uno dovrebbe studiare sul manuale che vuole, questo ci dovrebbe essere. Ma è una cosa molto semplice, per cui insomma, non è che tutte queste cose qua, questa occupazione della scuola abbia impedito poi alla sinistra possiamo di vincere. Possiamo dirla tutta, qui siamo veramente, stiamo creando un clima da maccartismo. No, vabbè, adesso non esagerare tu, il clima da maccartismo, ma quale clima da maccartismo? Sono questa cose che ho che i comunisti dentro le scuole, ma quale egemonia comunista c'è in questo paese? Ma lo volete spiegare una volta per tutte? No, ma Berlusconi, ripeto, una cosa che viene detta dice da una ventina, da una vera, ventina d'anni. È una balla, è vero, nei libri di storia non c'erano le foibe, gravissimo, gravissimo. No, ma tante altre cose, anche grandi vabbè, sfondoni, interpretazioni, personaggi che vengono esaltati solo perché appartengono a un certo giro, eccetera. Ma è così, un po' è così. Detto questo, poi io tutto questo non ho visto. È una cosa che è una sua spiegazione, è una cosa che ha una sua spiegazione nella storia italiana, della società italiana. E molte cose tra l'altro sono cambiate, perché non è più come 15-20 anni fa. Detto questo, la cosa, diciamo, non ha alcuna importanza sul consenso, perché è evidente che non ha alcuna importanza sul consenso. In ogni caso, Berlusconi lo tira fuori perché ci sono dei cliché che tira fuori ogni volta quando inizia una campagna elettorale. Non sa più cosa dire, sembra la solita roba, il solito copione, hai detto bene tu, non c'è nulla di nuovo. Perché non inventa qualche stupidaggine nuova? Beh, come no? Ce ne sono di continuo. E cosa? Ormai è tutto prevedibile, un copione prevedibile, magistrati, scuola. Cioè, per esempio, il giallo, mandatemi una musichetta col giallo. Tutum, il giallo del patto tra Fini e i PM. Ah, già, e questa è una roba nuova, ad esempio. Ha iniziato Berlusconi in questo modo. Berlusconi. Fini è venuto fuori chiaro, aveva un patto che mi è stato raccontato parola per parola da uno dei giudici che aveva partecipato alle discussioni con lui da parte del sindacato dei giudici. Aveva un patto che è un pactum sceleris, sicuramente, che diceva: voi mi proteggete, a me e ai miei uomini, voi perseguite Berlusconi, io vi garantisco che fin quando io sono qui nel Popolo della Libertà e faccio il Presidente della Camera non passerà nessuna riforma che vi dispiaccia. Anzi, una volta fatto fuori Berlusconi ci siederemo a un tavolo e faremo tutte le riforme che vi converranno, o nessuna riforma se questo vi converrà di più. L'interpretazione del ministro Rotondi questa mattina, il giallo del patto Fini PM. Io penso che questa curiosità sarà soddisfatta presto, cioè farà il ma nome. Non dal presidente Berlusconi. Il presidente Berlusconi si riferisce a una circostanza che per una serie di ragioni sarà molto presto pubblica. Penso che egli abbia appreso da una fonte diretta una cosa che questa fonte diretta ha intenzione di illustrare nel momento in cui separerà il suo ruolo dalla situazione nella quale ha preso queste cose. Capito? Pronto? Poi ti rivelerò di chi è il numero che sta... Ah, Asor Rosa? Sta squillando. No, basta con Asor Rosa. Basta, non vuole rispondere. È quello dei manifesti? Sì. Antonio, perché provincia di Siracusa, non si è presentato, no? Antonio, provincia di Siracusa. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Antonio, poco fa ho sentito la battuta che ha detto Grillo a Piazza San Babila lì a Milano. Sì. Ha detto praticamente: non parlatemi di persone morte, perché voi poi fate i medium e fate parlare i morti. Sì. Ma guarda, guardate, scusa, io sì, sempre del tuo. Ma non ha detto insomma una fesseria, sia pure in chiave ironica. In effetti ci sono poche idee che girano in questo periodo, pochi programmi. Sì. In tante cose, appunto, poco fa l'avete detto voi, ci ripetono le stesse cose da 20 anni. Forse allora bisogna rifondare le ideologie, sia liberali, sia di centro-sinistra, sia di centro. Sì, rifondare le ideologie è interessante. Rifondare. di fondare le ideologie soprattutto è interessante. Vabbè, ma la società cambia, quindi possono cambiare perfettamente anche le ideologie. Non ho detto niente di strano, né io né Grillo. No, se no. Lui l'ha detto ironica, io lo dico veramente. No, scusi, veramente Grillo non ha detto questo. Comunque, insomma, le faccio presente che Grillo ha detto un'altra cosa, che i politici sono tutti morti, la politica non serve più a niente, il Parlamento non serve. Grillo ha un'idea della democrazia. Il Parlamento è nominato, sua. Non è eletto, scusa, non è che ha detto una fesseria. Il Parlamento viene nominato, tu sei amico del segretario, ti mette in prima fila. Sì. Non ti mette trentesimo. E questo sì, è vero. Sì, sì, no, per carità, è tutto vero, Antonio. Non è che non è che questa legge elettorale, non è che questa legge elettorale non dice, dice non dice in comicità, è così. Conosco il dramma comico satirico tipo Goldoni che fa Grillo. Sì. Perché ho studiato. Beh, adesso un paragonare Grillo a Goldoni, amico mio. Volevo parlare con il signor. Sì, salve. Stiamo cercando il signor Lassini. Non c'è in questo momento, chi lo desidera? Sono Giuseppe Cruciani dalla Zanzara, Radio 24. Glielo dico, la faccio chiamare. Sì. Ma dov'è? Dov'è? Dove si trova in questo momento? Perché stiamo cercando da un po' di tempo, doveva venirci a trovare. Non glielo so dire, io faccio parte della segreteria. Della segreteria? Ma non è che sta attaccato dei manifesti, no? Può darsi. No, siccome avevamo un appuntamento ma non si è presentato, allora la cosa ci inquieta parecchio. Mi dispiace, la faccio che chiamare. Buonasera. No, ma siamo anche preoccupati però. Ha capito, siamo un po'... Io ho anche la Pasqua ebraica, devo sapere se vieni in studio o no, perché ho la Pasqua. Va bene, riferirò, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie, signor Mario da Roma. Buonasera, buonasera, direttore. Dica. Buonasera anche al dottor Palenzo. Direttore sbagliato, comunque, allora. Al massimo direttorissimo. Il direttore Cruciani, direttorissimo. Ecco, no, direttore, quindi, troppo allora poco. Ti dico buonasera, direttorissimo Cruciani. Bene, buonasera, no, dottor Palenzo. Dica. Allora, io il mio intervento lo volevo fare sulla discussione avuta con Fede venerdì, però, ahimè, non posso esimermi dal commentare le dichiarazioni della Carlucci di poco fa, che secondo me sono vergognose e alquanto ridicole. Allora, allora, io sono un elettore del PDL, ho votato Silvio Berlusconi, pentendomi amaramente. Voglio dire alla signora Carlucci che io non ho votato Silvio Berlusconi per fargli raccontare le barzellette ai convegni con i giornalisti, con altri politici e con capi di Stato, mentre o prima o dopo cerca di far passare leggi anticostituzionali come il lodo Alfano, il legittimo impedimento, il processo breve, prescrizione breve, che servono per salvare il suo culo. Mi verrebbe da dire, scusi un attimo Mario, il suo scusi per salvare? Il suo culo flaccido, come l'hanno chiamato le intercettazioni. Mario, mi scusi un attimo, mi verrebbe da dire, ma lei che l'ha votato a fare, scusi, non ho capito, perché mi pare un po' bizzarra questa cosa. Perché pensavo che il signore era una persona seria e mi faceva le riforme che da quasi 18 anni ha promesso di farmi e non ha fatto. Quindi lei lo sa perché l'ho votato, Cruciani? No, veramente io non lo so. Come tutti gli altri italiani? No, non è nasconderci dietro una maschera. No, ma è lei che... Scusi, abbia pazienza Mario, adesso non è che se la può prendere con me perché lei ha votato Berlusconi e dopo un po' ha scoperto quello che era già evidente prima, cioè che dice le barzellette, che vuole fare delle leggi, perché poi uno le può giudicare bene, male, può parlare della giustizia, eccetera, però mi sembra che quello bizzarro qui non è Berlusconi, sia lei, insomma, abbia pazienza. Perché sono bizzarro, scusi? No, ma perché lei dice, io ho votato Berlusconi, poi me ne sono pentito perché dice le barzellette e fa la legge ad personam, insomma, uno potrebbe dire, allora, mi sembra Fini, lei, mi sembra Fini. Io ho votato Berlusconi perché pensavo che mi faceva le riforme e non me l'ha fatta, punto. Poi mi vergogno ancora di più e di risponda alla signora Carlucci, perché lei ha detto che questa persona è un esempio. Allora io da questa persona non mi posso aspettare che vada ai convegni a raccontare barzellette quando o prima o dopo cerca di far passare leggi anticostituzionali, oppure Mario, quando le ripeto, ho chiamato in missione ho di capito. Stato da una prostituta. Va bene. Fa scendere un'altra prostituta da una questione. Quindi la signora Carlucci si deve vergognare di quello che va bene, dice. Mario, e se lei ha finito di sfogarsi, se lei ha finito di sfogarsi, poi mando la pubblicità. Che deve dire a suo figlio? Insegni pure alla signora Carlucci come deve educare il figlio. Ai suoi amici che questa persona, sì, mentre fa lo spiritoso, sì, con questo che ho detto ora, in questo momento, sì, sta buttando il nostro paese nel baratro. Benissimo, il baratro. Siamo qui, sono le 20 in punto, 800 24 00 24. Eccoci. Proviamo a richiamare il signore che gentilmente doveva venire qui nei nostri studi e poi si era data gambe. Ma che è successo? Spiegami un attimo. Non lo so, è una cosa che non interessa molto i nostri ascoltatori, però a questo punto lo richiamo. Sì, è giusto. Ma non voglio di nuovo... occupato il telefonino. Alberto da Verona, buonasera. Buonasera, direttorissimo. Dica. Io la chiamo sempre direttorissimo. Bene. Niente, volevo, hanno già detto tutto sulla Carlucci. Io dico solo che dovrebbe vergognarsi lei già di stare in Parlamento, se si permette anche di dire quello che ha detto, questa no, è finita. Una seconda cosa volevo chiederle, perché non chiama Formigoni invece di Assa Rosa, vedrà che le risponde a Formigoni? Perché? Mi scusi. Può fare una cortesia di chiamare Formigoni. Ma perché dovrei chiamare Formigoni? Lei dovrebbe saperlo perché. No, ma Alberto, non ho capito, lei mi sta invitando a invitare Formigoni. Benissimo, accolgo, tra poi nei prossimi giorni magari invitiamo Formigoni. Ma non c'è una terza cosa, poi ho finito. Prego. Io mi chiedo cosa ci fa lei a controcampo, una persona come lei a controcampo. Alberto, senta, non è un argomento cosa di discussione pubblico, cosa c'è? Stiamo parlando di cose, di politica, eccetera. Sì, alla no, gente non gliene frega niente. Ad occuparsi di calcio una persona. Vabbè, come ma lei. Non si preoccupi, lei, Alberto. Faccia quello. Lei si occupi di quello di cui si deve occupare lei. Non si preoccupi di quello di cui mi occupo io. No, ma lei può dire quello che vuole, per carità. Ma di lei l'apprezzo molto. E vabbè, ma non è che là sia quel posto lì sia la sentina di tutti i mali, eh. Cioè, non si parla di calcio, non si può. Non si parla di calcio, no, non si può parlare. Facciamo come Grillo che vuole eliminare le industrie di fabbricazione delle automobili. Eliminiamo la discussione sul pallone. Benissimo, Alberto. Va bene. La democrazia. Viva la democrazia. Viva la democrazia. Oreste da Verona. Dica. Ma io volevo gettare un cono di luce sul giallo, come lo chiamava lei, di Fini. Sì. Allora, in una occasione che adesso non riesco a leggere dove è successo, ho in mano un foglio di ilgiornale.it del 13 di aprile di quest'anno, dove dopo una trentina di righe c'è scritto... È un virgolettato, quindi è accreditato al Presidente del Consiglio. Un attimo solo. Parenzo. Eccolo. Comitato Lassini, buonasera. Comitato Lassini, buonasera. Stavo cercando il signor Lassini, esiste anche un Comitato Lassini? C'è. No, in questo momento è impegnato con delle persone, con chi parlo? Sono Cruciani. Buonasera. Buonasera, come sta? Molto bene, grazie. Che bella voce, signora. Prego? Che no. Bella voce, complimenti. Ah, la ringrazio per avermi dato questo un complimento per me. No, ma me lo dicono in tanti, devo dire. Bella voce, cara, è molto. No, bella. Ma non è vero, mi sto gasando. No, ma una voce bella. No, ma sia serena, ma è giovane lei, la voce bella, giovane, fresca, brava, fresca. Sì, comitato Lassini, bella gente, voce fresca, bene. Posso permettermi di farla richiamare se mi lascia un recapito telefonico? Sì, per carità. Generalmente, cara, funziona che quando uno dice posso farla richiamare, io aspetto una chiamata dalla Rai per fare un programma da 3 anni, quindi sa come dire, la richiamiamo noi, no, chiamiamo noi. Ma noi non siamo mica la Rai, No, per carità, non siete la Rai, no, perché nemmeno il tribunale, nemmeno il tribunale di Milano soprattutto. No, ma sa come si usa in genere, dice sì, dottore, la facciamo richiamare noi, non si preoccupi. No, assolutamente, ci mancherebbe altro. No, senta, no, in questo momento... si dà il caso, signora, molto gentile, ma molto sì. Molto carina, non lo so, ma insomma con la voce molto voce, sì, carina, la voce molto bella. Magari se abbiamo modo di conoscerci, non so, magari lo potrà dire. Sì, vabbè, infatti, magari. Però. Chi può dirlo? Un po'. No, chi può dirlo, certo, assolutamente. Senta, no, si dà il caso che il signor Lassini, sì. Per tutta la giornata aveva promesso di essere nostro ospite qui a Radio 24. Ah, dopodiché sì. Ci ha dato la cosiddetta sola. Non so se lei conosce questo termine romano. Io sono romano, ma trapiantato a Milano ormai da tanti anni. Opaco a seconda degli ambienti, per cui noi lo volevamo sentire al telefono rapidamente per farci confermare il fatto che lui continua, perché la candidatura no, resta, no, mi sembra di capire, dai, comitato Lassini non si è sciolto, assolutamente no, che io sappia assolutamente no, cioè resta la... nulla, assolutamente non è cambiato niente, no, non è cambiato. Quindi comitato Lassini 2 punti, noi siamo ancora in lista, benissimo, noi perfetto. Siamo ancora in lista, vabbè, però ma io sono in onda, ma è lì. No, perché ecco. No, perché... no, lei, no, ma il signor Lassini è lì vicino a lei? No, non è qua, è impegnato con delle persone. È impegnato con delle persone. No, io vabbè, signora, lui è fuori. Signora, quando si libera, dica che ha chiamato Cruciani, perché noi continuiamo, noi tra 20 minuti richiamiamo, cioè non è... Ok, sì. Lui ha un suo recapito telefonico? Sì, dovrebbe avere il nostro recapito me telefonico, lascio. Sì. Se vuole glielo lascio io, 335? Sì. Sì. Beh, poi magari siccome siamo Il resto del numero magari glielo, se lo fa dare dalla, dalla segreteria del direttorissimo Cruciani. No, ecco, appunto, cioè il numero. Vuole lasciarci lei il suo cellulare, signorina cara? E quando le lascio il mio, che cosa fa? Beh, intanto un passo in più l'abbiamo fatto, eh. Vabbè, comunque. Ah, vuole il mio cellulare? No, che carità, adesso. No, adesso non esagerare. Vuole mica. No, no, no, che Radio 24, forse tele 24, magari sono telegenica. Ma hai visto mai? È gente simpatica questo suo comitato. Ho solo la voce, beh, ah, però per una radio la voce buona può anche andare bene. Capito. No, veramente, adesso a parte gli scherzi, no? No, a parte gli scherzi, lei già lavora per un grande statista, per cui insomma... Un grande statista. Vabbè, fa l'ironico il signor Parenzo, no, fa, è un po' ironico, sa, capito, questa storia dei manifesti, no? Certo, è stata pesante questa storia dei manifesti, no? A me non deve dire nulla. No. E chi le dice qualcosa, infatti? No, no, per carità, infatti. No, siccome potrebbe cadere la candidatura, allora quello è... Mentre, capito, vabbè, comunque. No, non c'è problema, certo. Vabbè, allora dica signora Siri, noi l'aspettiamo sempre con grande trepidazione. Va bene. Però almeno per dirci una frase sola. Una frase. Va bene. Non farò io alcun passo indietro. Io ho solo un 335, farò contattare un 335 nella speranza che Radio 24. No, ma lui ce l'ha. Lui ha tutto. Va bene. Grazie signorina. Buona serata a voi. Grazie. Quando ci risentiamo? Ma che ne so, magari tra 20 minuti, chi può dirlo? Michele da Piacenza, buonasera signor Michele. Buonasera signor Cruciani. Dica. Io volevo parlare riguardo al discorso della signora Carlucci di prima. Sì, prego. Io, essendo giovane, mi sono sentito chiamato in causa, dato che lei parlava dei giovani e della figura di Berlusconi, come vedono i giovani. Io mi sono, diciamo, sono totalmente d'accordo con quello che dice la signora Carlucci e non vedo perché gli ascoltatori di prima, non capisco perché le dicono di vergognarsi, non capisco proprio. Dato che ma guardi, che io non dico a nessuno che si deve vergognare, eccetera, assolutamente no, per cui ma con me io, non... Loro hanno detto che la signora si doveva vergognare e non capisco il perché, anche perché non hanno dato delle spiegazioni a ciò, quindi... Perché vede, immaginare Berlusconi come un modello per i propri figli o nipoti addirittura è divertente, curioso. No, ecco, appunto, però non è che uno, se uno dice cose del genere, non è che tu rispondi si deve vergognare, no? No, infatti io no, però trovo curioso questa cosa che addirittura i tuoi figli adorano questo uomo che racconta le barzellette, che è un uomo di... è un capo di Stato, cioè racconta le barzellette, già va giudicato per la politica che fa, non si fa divertire i figli della Carlucci, ma di che parliamo, amici miei? Di che parliamo? Signor Gianni, come risponde a questa osservazione acutissima di Parenzo? Ma non so se è acuta, banale, no, anche sto ormai scherzando, in un paese... Non ero ironico. Ho capito. Allora Gianni? Vedo Berlusconi come, diciamo, l'unico personaggio carismatico attualmente nel panorama politico in grado di riunire delle forze nella destra. Che peraltro lei non è Gianni, ma Michele. Michele. Sì, Michele, no. Ma vede, Micheluzzo mio, anche Churchill faceva delle battute acutissime, Churchill ad esempio. Però aveva un'autorevolezza diversa da Berlusconi, Micheluccio, cioè, sì. Bisogna anche riconoscere, no? Vabbè, adesso il paragone non è tra Churchill ma no, e per Berlusconi. Per dire che Churchill era una persona divertente, anche lui faceva le battute, non raccontava le barzellette della mela, ma era perfido nel suo battute, era pungente. Quello credo che faccia parte del personaggio e... Però poi bisogna fare anche un po' di politica. Vada poi anche, diciamo, una persona, un personaggio politico vada anche giudicato in base... a quello che fa, a quello esatto, è proprio per questo, Michelino mio, che io ti dico. Va bene, Michele, ringraziamo il signor Michele da Piacenza e andiamo a sentire, mentre resta sempre collegato con noi il mitico imbelvito da Pisa, Giovanni, che sta ascoltando con grande attenzione, immagino. Lei ha capito perché il signor Lassini se l'è data a gambe invece di venire da noi questa sera, signor Giovanni? Si può pronunciare quella parola che diceva prima di vergogna, è la vergogna. Può fare queste cose qui. Lei dice che si è talmente vergognato di questa storia dei manifesti che adesso non risponde più, ma no, non è per questo, perché c'è la questione della candidatura. Cioè, no, cioè... ma ha paura di essere attaccato, ha paura, cioè non saprebbe cosa, io non lo so, non sono nel suo cervello. Però sai qual è il dramma? Qual è il dramma? Che secondo me il signor Lassini rischia di prendere anche tante preferenze. Ma quello cioè, può darsi, io però da questo punto di vista devo dirti la verità, per questo ero molto curioso di sentire il signor Assini, perché mi era venuta in mente anche una linea difensiva. Tu penserai sono matto, no? E anche Giovanni penserà come ti viene in mente di difendere il signor Lassini? No, io non è che difendo quello che c'è scritto su quei manifesti, naturalmente no, è una follia qualsiasi tipo di accostamento, e lo stesso fatto di avere pensato di scrivere la parola Brigate Rosse, non è questo il punto. C'è però una cosa fondamentale che si chiama libertà di espressione, si chiama cioè la possibilità di essere anche molto duri nei confronti delle istituzioni. Questo succede ogni giorno per quello che riguarda il Presidente della Repubblica, su internet, per quello che riguarda il Presidente del Consiglio soprattutto. Cioè non è che le istituzioni oggi in Italia non vengano attaccate, vengono attaccate senza pietà, anche con paragoni assurdi, con frasi roboanti, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito prima Grillo. Dunque mi pare che quando invece si toccano i magistrati si metta in moto un certo tipo di meccanismo. Questo, ripeto, la condanna. No, ma capisco la tua critica, ma se io dico che il capo dello Stato è un golpista, vi faccio un'accusa gravissima che merita, come dire, non solo una critica ma anche un procedimento penale, perché faccio un'accusa io proprio molto sul procedimento forte al capo dello Stato. Sì, però adesso non stiamo parlando di golpismo. Questo ha parlato di Brigate Rosse, cioè sì, di gente d'accordo, che ha ucciso, che certo, ha fatto ma di Brigate Rosse, volevano cambiare un altro regime democratico. Figuriamoci, ma non c'è dubbio. Però quindi io volevo dire al signor Lassini, a sì, questo signor Lassini, che si dovrebbe vergognare per quello che ha fatto, però lo dico con, come dire, senza livore, ma si dovrebbe vergognare, sì, che imparasse dai radicali come si fanno le battaglie garantiste per combattere uno strapotere, uno certo strapotere. Cioè tu della dici con altri toni, con altri toni, con altre dai campagne. Radicali, cioè. Imparasse da Enzo Tortora e si vergogni e si vada a nascondere. E imparasse da Enzo Tortora però e bisogna, si vada a nascondere. Però tu sei d'accordo col fatto che, per esempio, c'è un passaggio importante, cioè non c'è solamente la critica forte nei confronti di quello che ha scritto questo signor Lassini, c'è anche l'accusa precisa di vilipendio alle autorità giudiziarie. Se è previsto dal codice, sono cazzi suoi. Questi, è previsto dal codice, ma ci vuole un passaggio che è quello dell'autorizzazione per questo tipo di procedimenti di Alfano. Cioè Alfano, uomo del PDL, dovrà decidere se i magistrati potranno iniziare un'azione giudiziaria nei confronti del signor Lassini. Cosa deciderà Alfano? Secondo l'imbelvito da Pisa, cosa deciderà? Niente. Ah, di non procedere, dice lei? Ma cioè, qui si sta parlando veramente di come c'è serietà in tutto ciò. Cioè, io, cioè, parlare di queste cose, insomma, bisogna scegliere. A un certo punto bisogna scegliere di cosa parlare. Perché questi ci infognano, Luciani, questa è la cosa chi grave. Chi questi? Questi chi? Questi, Berlusconi, questo Lassini. Ci infognano in che cosa? Ci obbligano a parlare di queste cose, probabilmente per non parlare di altro, Cruciani. No, ma non è così. Cruciani, io ho pensato anche una cosa stanotte. Cosa ha pensato stanotte? Perché non ha dormito stanotte? A un certo punto mi sono svegliato e mi sono messo a pensare a questa cosa qui. E cosa si è messo a pensare? Insomma, ci sono in Italia, un po' da sempre, dai pensi alle stragi, ma in questo momento ci sono due supposte verità, no? Sì. Quella di Berlusconi e di altri, e quella di quelli che lo contrastano. Lo sappiamo. Allora? Sono due verità, ma insomma è possibile che in Italia non si riesca mai a saperne una, Cruciani? Ma sa, l'amore della verità non è che bisogna vedere da che parte si acchiappano le cose. Cruciani, mi ascolti? Mi ascolta, Cruciani? Sì, come no? Io sono garantista. Sì, allora? Però sono garantista con quelli che si fanno processare. Ancora, Giovanni, me l'ha ripetuto mai, già. Mai, Cruciani, non ci sono versi, non si fa mai processare. E quello pensa che lo perseguitano, pensa che lo perseguitano e si difende con tutti i mezzi possibili e immaginabili. No, Cruciani, se dice così mi fa imbelvire. Perché lei se uno pensa di essere perseguitato, con tutti i mezzi che ha a disposizione... No, Cruciani. Cruciani, mi ascolti bene. Sì. È una questione poi non è vero quello che dice lei in realtà, non è solo... lei sbaglia in questo, è una questione filosofica. Lei non può dire lui pensa, lei può soltanto dire, lei non può sapere cosa pensa lui. Io so che lui pensa di essere colpevole e quindi si fa processare per quello. Lei può solamente dire, lui dice di pensare. Vabbè, ho capito, adesso allora, non stiamo qui a, non facciamo filosofia su questa cosa, andiamo a sentire il traffico però. Cruciani, perché lei mi dice lui pensa. Traffico. Come pensa? Vabbè, pensa, in qualche modo penserà. Ma se non si farebbe processare Cruciani, ma i giudici non l'hanno mai condannato. Ho capito, ma magari qualche, magari qualche volta è innocente. Hanno, questi poveracci hanno delle notizie di reato, cercano di andare avanti e non riescono a finire o per prescrizione o per altre cose. Vabbè, cose. Traffico, questa Giovanni. Siamo qui 20:19, prima di lasciare Parenzo alla sua Pasqua ebraica, ultimo tentativo che così. Detta così sembra una battuta. No, no, dire, no, non è affatto una battuta, è una cosa molto seria, per carità. Posso salutare gli amici di Confindustria intanto? Sì, ma che c'entra adesso? Non c'entra nulla, però così. Così, un saluto così, una sorta di lisciata di pelo non richiesta. Saluto, no, perché ho incontrato qui a Siena stamattina degli amici da Confindustria che mi hanno detto saluta Cruciani, che è bravissimo. Sì, un attimo. Pronto? Signor Lassini? Sono Filippotti, chi parla? No, signor Lassini, ci sta prendendo in giro. Ci sta prendendo in giro. Sono Filippotti, buonasera, lei ha sbagliato numero. Ma signor Lassini! Era lui, era lui, richiamate subito. Siccome è un ascoltatore della Zanzara, fa le battute su Filippotti, ma noi non ci cogliona però. Beh, mica siamo qui a, no, come dice? A pettinare le bambole. Bravo, richiamiamo ancora. Come si permette poi di chiuderci? Sì, ci chiude il telefono in faccia, roba da matti. Ma come si permette? Adesso ci denuncia, siccome è avvocato, ci denuncia per stalking. Pronto? Sì? Sì? Sono Lassini. Lassini poi si chiama, Lassini. Rispondi, Lassini. Rispondi. Rispondi, se hai coraggio. Non Lassini. Siamo contro di te. Non abbiamo nulla contro di te. Veniamo in pace, Lassini, rispondi. Lassini. Non abbiamo niente, io in particolare, caro Lassini. Perché non vuoi rispondere? Per vedere Film Shining, Wendy, Lassini. Non c'è niente da fare. Non vuole rispondere, la cosa è incredibile, Una cosa ma incredibile. Poi ha fatto questo bluff di dire sono Filippotti, ma come si permette? Un altro scherzo, scusa. A me. Tranquilla, Giovanni? Sì, no. È un divertimento, sono cose che fanno cascare un po' le braccia. Da una parte di Dramma Lassini. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Ciao David, buona serata. Domani ci sono, domani fino alle 20:30 ci sono, credo, sono in fase di trattativa col governo, ma ci sono. Va bene, titoli della 7, via. titoli. Napolitano, sulla giustizia lo scontro è al limite della degenerazione, serve misura, se no si va incontro a pericolose esasperazioni. E prende posizione anche contro i manifesti affissi a Milano, è un'ignobile offesa alle vittime dell'EBR. Ma lo scontro continua, ieri Berlusconi aveva accusato Fini di aver stretto un patto con i magistrati, stamani il Presidente della Camera ha incontrato proprio i vertici dell'ANM e ha replicato le toghe sono il pilastro della democrazia. E quanto ai manifesti, il consigliere PDL Lassini, che nell'autore e altri due indagati oggi a Milano per vilipendio della magistratura. Caso Rubi, Nicol Minetti dice io non c'entro, non ho portato ad Arcore la ragazza marocchina e così lascia soli Fede Mora per questa responsabilità. E nella polemica entra in scena Stefania Craxi che consiglia basta barzellette, Silvio rischia di finire nel ridicolo, esca di scena nel modo giusto. Dopo lo stop francese dei treni dei migranti alla frontiera di Ventimiglia, le proteste diplomatiche, il blocco sui binari, esplode la pace tra Italia e Francia, si va verso un accordo sui permessi temporanei dei tunisini, Berlusconi e Sarkozy lo firmeranno nel vertice del prossimo 26 aprile. Assolte le quattro banche estere accusate di aggiotaggio nel processo sul crack Parmalat, cade la tesi che i manager bancari abbiano speculato d'accordo con Tanzi sul e titolo, la truffa ai risparmiatori sarebbe stata compiuta allora solo dal patron dell'azienda. Nel nostro sondaggio del lunedì continua a flettere il PDL, il PD resta stabile a solo 2,5 punti in meno dell'altro grande partito, lieve aumento dei centristi del terzo polo, ma crescono nettamente anche le quote di indecisi e astenuti. E stasera, dopo 8:30, per la prima volta su una televisione in chiaro, senza interruzioni pubblicitarie, la passione di Mel Gibson. E poi si discuterà della figura del Cristo, della croce, del cristianesimo e di noi. Siamo qui, allora, è guerra aperta tra Emilio Fede e Nicole Minetti. Dice Emilio Fede: ho letto una sintesi della memoria difensiva di Nicole Minetti assistita dall'avvocato Daria Pesce. L'unico elemento mancante è che entrambi avrebbero bisogno dell'assistenza di uno psichiatra. Il consigliere regionale Nicole Minetti ha depositato oggi, tramite il suo legale, una memoria difensiva nell'ambito del filone di inchiesta appena chiuso sul caso Ruby, in cui, come avete sentito anche nel titolo della 7, sembra scaricare tutte le responsabilità sulla convocazione ad Arcore di svariate ragazze sulle spalle di Lele Mora ed Emilio Fede. Bene, Massimo da Roma, buonasera. Buonasera, a volte vi ascolto, non sempre per la mia professione. Grazie. E recentemente ho sentito uno scambio piuttosto vivace tra il vostro Parenzo e Scilipoti. E allora sono andato a vedere un pochino se questo nome è così strano, un po' da cultura latina, sì. poteva dare un qualche significato, e quindi vi metto in guardia, perché Scilipoti dovrebbe venire da queste due parole latine, scilicet, che significa naturalmente, potius, sì, più degno. Quindi state un pochino attenti, perché questo soggetto è uno dei migliori. Solo che io personalmente, con questo chiudo, sono ginecologo e endocrinologo. No, mi scusi, da Massimo. Giorno, Massimo, dico soltanto che sono endocrinologo, perché sì, mi vergogno di essere ginecologo. E perché si vergogna di essere ginecologo, mi scusi? E perché Scilipoti è ginecologo. Ah, lei si vergogna di essere... Questo ginecologo mi sembra francamente un po' esagerato, eh? Non è che Scilipoti sia l'emblema, sia l'emblema dei ginecologi. Che si merita. Sì, scusi Massimo, non è che Scilipoti sia l'emblema o il simbolo dei ginecologi italiani, eh? No, meno male. E allora perché lei si vergogna di essere ginecologo? E far sapere che è un ginecologo che crede all'acupuntura, alla omeopatia, a queste cose. Per queste cose si batte, oltretutto. Va bene. E mi sembra che non sia una cosa che ci dia molto lustro. Bah. Comunque è una mia opinione, eh. Sì, per però carità. Insomma, state attenti che avete a che fare con uno naturalmente più degno o il migliore. Perché questa qua è la il significato dal latino della parola scilipoti. Ma non è che ci metta la mano sul fuoco, se ce lo dice lei, allora è un soggetto che viene dalla Magna Grecia, probabilmente ci sarà nel suo nome qualcosa che ha a che fare con queste due paroline. E ho ripeto, capito. La prima è scilicet, che viene da scilicet, e significa naturalmente. Lei ha passato del tempo a trovare ho messo due secondi, mi è capitato sotto mano un vocabolario latino, ho detto fammi vedere un momentino, ho capito, visto che il soggetto è abbastanza particolare. Ma non ci dedico più di tanto, perché va bene. Massimo, la ringrazio molto. Amedeo da Napoli, buonasera. Dica. Prima abbiamo ascoltato l'intervento di un radioascoltatore che affermava che era un elettore pentito del PDL. Sì. E ho sentito da parte sua un certo, non so se ironia o scetticismo di questa cosa, incredulità di questa cosa. Mm. E io volevo dire la mia. Per me siamo in tanti che abbiamo votato in passato il PDL e sì, che oggi ne siamo pentiti. La mia, cioè il mio è stato un voto... No, ma io stavo dicendo semplicemente a quell'ascoltatore di prima che siccome mi stava dicendo due cose. Una cosa è che Berlusconi fa delle leggi per tutelare i suoi interessi, le famosissime leggi ad personam. Questo secondo l'opinione dell'ascoltatore. La seconda cosa è Berlusconi che racconta le barzellette. Ora, siccome queste due cose non sono proprio degli ultimi anni, ma sono cose, volendo, che risalgono anche a 15-20 anni fa, mi stupisce del fatto che uno abbia scoperto improvvisamente Berlusconi negli ultimi due anni. Questo stavo dicendo all'ascoltatore. Magari erroneamente qualcuno l'ha considerato in quel periodo il male minore. Ma io non mi sembra strano che uno professi, cioè nel senso che saremmo stati meno perspicaci di tante altre persone, ma semplicemente in quel momento abbiamo, va bene, comunque anche lei si è pentito, anche lei si è pentito, l'ho votato, ma come me credo tantissime persone. Vabbè, adesso insomma questo non lo sappiamo. Comunque lei mi sta dicendo che ha votato Berlusconi nel 2008 e adesso si ho è pentito. Ho votato la coalizione, non proprio direttamente Berlusconi, ma la sua coalizione. La coalizione, e adesso non lo voterebbe più. Assolutamente. Bene, grazie. Andiamo a Brescia. Carlo, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Complimenti per la trasmissione, ovviamente. Molto brevemente, volevo fare una considerazione. Mi collego a quanto diceva lei prima. Tutta questa questo caso, no, di Lassini, i manifesti, Brigate Rosse, non capisco perché ci si scandalizzi tanto adesso per questa cosa, non si sia mai sollevato nessun caso quando ad esempio l'onorevole Di Pietro ha paragonato il nostro Presidente del Consiglio ai peggiori dittatori al mondo attuali e del passato, o addirittura il nostro sistema come una dittatura, quindi volevo fare questa considerazione. Sì, Carlo, diciamo che esiste ancora questo reato che è vilipendio all'ordine della magistratura, vilipendio ai magistrati, eccetera. Io ripeto, sono del parere che, per carità, poi i magistrati possono fare tutte le azioni giudiziarie che vogliono. Credo che queste cose, essendo comunque pesantissime, nonostante il fatto che queste cose siano pesantissime, debbano sempre rimanere nel campo del dibattito, dunque della condanna anche molto ferma. Poi vai a vedere i reati in questo caso, però insomma ripeto, esiste questo reato, ci vuole l'autorizzazione del Ministro della Giustizia perché è un reato particolare, però non si possono fare paragoni con altre cose, siccome gli altri, Pietro ha detto quelle cose, siccome anche la sinistra usa le parole molto dure, certamente le istituzioni, anche la Presidenza del Consiglio è un'istituzione, anche la Presidenza della Camera, la Presidenza del Senato è un'istituzione, non è, diciamo, non è come la magistratura nel suo complesso, in questo caso fuori le BR dalla procura è qualcosa comunque di diverso, o no Carlo? No, certo, io concordo, ma infatti io condanno il messaggio in sé, però mi sembrava ci fosse un contrasto tra quanto viene accettato comunemente e quanto invece viene condannato adesso. E poi in ultimo volevo fare una considerazione su un aspetto, quanto parlarne così tanto può favorire alla fine Lassini, perché ripetere una pubblicità gratuita, perché molti potrebbero anche trovarsi d'accordo, è un messaggio molto semplice e diretto che arriva a tante persone. Quindi guardi, oggi ho letto un articolo di Carlo Lottieri sul giornale liberale, eccetera, che recita più o meno in questo modo, si conclude così: la tolleranza è una virtù difficile, ma chi pensa di avere buone ragioni dalla propria parte in genere non può avere paura di parole e manifesti. I cittadini, dunque, lui sostiene la necessità della candidatura di Lassini. A questo punto i cittadini saranno liberi di votarlo, come giusto e ovvio in democrazia. Ieri si è parlato di una sua autosospensione, smentita però da Lassini. È candidato, resta candidato, aspetta solo di vedere che cosa faranno gli elettori. In un paese libero è buona cosa che chi attacca il governo e la maggioranza, ma con loro anche gli altri poteri, magistratura inclusa, liberi di votare il candidato anti-toghe. Questa è la... Giovanni, si imbelvisce per queste cose? No, qui sono d'accordo con lei. Infatti volevo parlare di quel discorso che aveva fatto Parenzo prima di andare via sul maccartismo. Anch'io credo, cioè Berlusconi ha in mente tantissime cose che potrebbero farlo definire un autocrate, un dittatore, perché lui, la magistratura, sono in parte comunisti, il capo di Stato anche allora? Da quella cosa, la consulta lo stesso è composta di più, il Parlamento è pretorico, insomma, voglio dire, lui cosa vorrebbe? E allora? Secondo me non ha le palle per farlo, perché qualcun altro prima ce l'ha avuto qualche annetto fa. Lui non ce l'ha queste palle. Lo dice perché sa che c'è una quantità di persone che sono d'accordo con queste cose qui, poi non fa nulla. Insomma, se io fossi il capo dello Stato, Cruciani, lo sa cosa farei? Cosa farebbe? Visto che il Parlamento non produce nulla, il governo non produce più nulla. Scioglierebbe le Camere. Vabbè, ma non è che si possono sciogliere. Lo dico con la morte nel cuore. Sì, ma non è che si può sciogliere il Parlamento così in 4-4-8. Ma è una situazione questa qui che io. Vede, non riesco. L'ha detto anche D'Alema recentemente. Un attimo solo, signor Giovanni, perché voglio sapere da Lele Mora. Buonasera. Buonasera. Come sta? Come state? Come stiamo? Noi bene. Lei? Molto bene. Dove si trova? Dove si trova? Milano? Mi trovo a casa di una donna meravigliosa. E chi è? Si chiama Nina Moric. Beh, a casa dell'ex moglie del signor Corona. Ma certo. E come mai è a casa della signora Moric? Come mai? Perché è una mia amica. Ah, perché è una sua amica, no? È una curiosità. È la mia amante, facciamo lo scoop, è la mia amante. No, vabbè, adesso non ci... Tra moglie e marito mettiamo il travestito, cioè io. Non ci prenda in giro così, signor Mora. Senta una cosa, ma ha letto queste cose che dice nella sua memoria difensiva? Sembrerebbe dire, scrivere insieme all'avvocato la signorina Nicole Minetti? Cosa ha detto? Io non ho seguito. Non ha seguito? Beh, io lo riassumo. Non ho tempo perché lavoro. No, ho capito, però siccome riguarda anche il suo futuro processo... Quando cosa, ci dice? Cosa dice? Dice, secondo quello che riportano tutte le agenzie, eccetera, eccetera, che le ragazze da Berlusconi le portavano Lele Mora e Fede e non ancora, lei. Ancora? Ma sì. È antica. Erano Lele Mora e Fede a portare le ragazze. Sa qual è stata la reazione di Emilio Fede? Gliela leggo, tanto così l'aggiorno su quello che è successo oggi. Ho letto una sintesi della memoria difensiva di Nicole Minetti, assistita dall'avvocato Daria Pesce, dichiara in una nota Emilio Fede. L'unico elemento mancante è che entrambi avrebbero bisogno dell'assistenza di uno psichiatra. Cioè, questa è la sostanza. Un attacco molto duro a Nicole Minetti. Che succede? Ci spieghi perché qualcosa? Perché si è presa un avvocato pazzesco che è un pesce. Il pesce di solito butta l'amo e Emilio Fede ha abboccato. Ah, ecco l'interpretazione. Ecco l'inghippo, però le ribadisco. Noi viviamo in un paese che è meraviglioso, che si chiama Italia. Sì. In Italia, per fortuna, ancora oggi, abbiamo la libertà di fare bene o male quello che vogliamo. Per fortuna, libertà di parola, di dire quello che vogliamo. Assolutamente. E la Minetti, la pesce che butta l'amo, Emilio Fede, possono dire quello che vogliono. A me queste cose non mi toccano e non mi sfiorano, cioè, perché io ad Arcole ci sono sempre andato con belle ragazze, con bei ragazzi, con le belle cene, con i begli inviti che mi ha fatto il presidente, quello che ho detto anche l'ultima volta che ci siamo sentiti. Assolutamente, con voi. Assolutamente. Ma nulla di che, nulla di per che. Per cui ma non c'è nulla di strano, lei dice. Indietro, sempre le stesse cose. No, per carità, è oggi, perché io l'ho richiamata perché c'era questa cosa della difesa della Minetti. Ma io le rispondo perché lei mi è anche simpatico. No, per questo la ringrazio, però voglio dire, siccome la Minetti ha detto queste cose, lei dice, sì, vabbè, che c'è di nuovo? E l'ho portate, sì, è vero. Cioè, no, confermo quello che sostiene la Minetti nel suo memoriale difensivo, è vero, le ragazze a casa di Berlusconi le ho portate anch'io, giusto? Ma guardi, io ne ho portate parecchie, ma andavamo a mangiare. Ah beh, certo, poi le serate si svolgevano come menù sappiamo. Menù tricolore. Il solito menù tricolore, le pennette e tutto. Esatto. Ma questa famosa statuetta di cui hanno parlato quelle due ragazze recentemente, ha letto, no? Quale? Queste ragazze che sono state interrogate recentemente dai giudici hanno parlato di serate, vabbè, che si svolgevano secondo loro con palpamenti vari. Guardi, posso dirle una cosa? Mi dica. Queste ragazze che è uscito pochi giorni fa. Esatto, quello mi riferivo. Quelle non sono mai state ad Arcole, dunque. Ma come non sono mai state? Glielo posso garantire io che non sono mai state ad Arcole. Ma come mai state? Mai. Dicono di essere state ad Arcole. Di... Mai. Vabbè, ma qui mai. È una divergenza pazzesca. Cioè, loro dicono di essere state. Io conosco Ambra, che è una ragazza che voleva fare Miss Italia, la conosco benissimo. Sì. Una ragazza stupenda, meravigliosa, ma credo che Arcole l'abbia visto in televisione. Ah, addirittura, cioè, si sono inventate tutto allora. Credo proprio di sì. Quell'altra ragazza non so chi sia. Sì. E dunque non potrei dire. Però di Ambra so che non è mai stata ad Arcole, dunque questo è il succo del discorso vero. Vero, vero, certo. Senta, la signora Minetti sembra avere una posizione come diversa dalla vostra per questione di difesa processuale, no? Dalla sua in particolare. Ecco, questa cosa non capisco, cioè che ruolo aveva nell'organizzazione di queste serate, che per me non era l'organizzazione, la Spectre per chissà quali reati, però voglio capire questa cosa qua, la signora Minetti portava delle ragazze di suo oppure no? Io credo che la signora Minetti, per le poche volte che l'ho vista io ad Arcore, era un ospite come tanti altri e nulla di più. Poi ognuno è libero, come l'ho detto prima, siamo in un paese meraviglioso, libero, sì, di dire e di fare quello che vuole. Però a volte, per discolparsi di cose che non esistono in questo caso, sì, dicono cose stupide. C'è chi butta l'amo come la brava pesce e chi abbocca come Emilio Fede. Ho capito, ci spieghi bene questa frase però, c'è chi butta l'amo come la pesce e chi abbocca come Fede. Allora, queste... se la pesce si chiama pesce, sì, cosa fa il pesce per magnà? Che fa il pesce? Cerca di attaccare all'ombrico quando viene buttato l'amo. E c'è qualcuno che resta però... Che si punge. Si punge, si punge. Vabbè, lei però non ci può lasciare così con le metafore. Io sono un uomo di metafore. Male non fare, paura non avere. Io nella mia vita non ho fatto niente di male. Ho fatto molto bene, però dimentico tutto il bene che ho fatto. Ma neanche mi ricordo il male che mi fanno, perché si vede che nell'altra vita ero un gran cardinale che mi hanno paragonato una volta, anzi sì, di più, mi chiamano Ratzinger. Addirittura. Senta una cosa, ultimamente lei con la Minetti aveva un rapporto di amicizia? Guardi, le dico, io la Minetti non l'ho conosciuta pochissime volte, non l'ho mai frequentata, dirò di più, non ho neanche il numero della Minetti. Non avete grandi rapporti, mai avuto grandi rapporti? No, mai, non fa parte del mio circuito di amicizia. Sì. Ma non mi dico una cosa in camera caritatis, ma è stata mai fidanzata con Berlusconi? Non credo proprio. Non è il suo tipo, dice lei. Non è il suo tipo. Non saprei, io non vado mai a mettere il naso dalle cose personali. Beh, come? Recentemente ci ha detto che Berlusconi ha una fidanzata. Io so che Berlusconi, le dico, ha una fidanzata. Lo so. E glielo dico certamente, questa fidanzata è bionda, sì, ha già una laurea, sta prendendo la seconda laurea ed è sarda. Posso dire il nome per questione diamo di un altro indizio, è uscito un nome recentemente di una ragazza. Ma io non faccio nomi, soltanto i cognomi. Diamo una... E allora chi è questa fidanzata, signor Mora? Sarà il presidente dirlo, non certo io. Com'è che si chiamava questa qua di cui è uscito fuori i nomi? Roberta Benasia, come si chiamava? Roberta Benasia? Che no? Ma no. Quella è l'infermiera. No, quella non c'entra niente, non mi ricordo chi è. No, mi scusi, un'altra, come si chiamava l'altra? Lasciamo tutti nel mistero. Nel mistero. Senta, un'ultima cosa. Vi saluto vi ringrazio. La signora Moric, che sta facendo la signora Moric? Sta mandando un messaggio, non so a chi, ma forse al suo nuovo e futuro fidanzato. Questi manifesti che ha visto per Milano sulle Brigate Rosse sono un po' esagerati, anche per lei, signor Mora, o no? Sì. Le Brigate Rosse... Quelle Brigate Rosse, sa questa polemica che c'è, le Brigate Rosse, i manifesti? Ma Basta polemiche. Ormai siamo pieni di polemiche. Basta. E che bisogna fare invece di fare polemiche? Viviamo tranquilli e sereni. Che bisogna fare? Bella la vita. Che bisogna fare? Ascoltiamo solo e esclusivamente la vostra radio, perché la Zanzara è la radio, il vostro programma più bello che c'è nel panorama radiofonico. Questo me lo ripeta bene, però, che così lo mando come spot. È il programma radiofonico più bello che c'è su tutte le radio. Vi darei il premio perché siete i più bravi. Grazie a Lele Mora, buonasera. Buona serata. Siamo qui 20:47 800 24 00 24 per chiamare la Zanzara. Voglio sapere se il mio amico da Pisa, l'Imbelvito, è rimasto inorridito dall'intervento di Lele Mora. Cusciani, ci vuole ben altro. Vuole, scherzo, no, non lo prendo sul serio, ma io ho molti difetti, Cusciani, io non riesco, come lei sa, come più volte le ho detto, non riesco a prendere sul serio nemmeno il Premier, però non vorrei sbagliarmi, Cusciani, capito, perché stanno succedendo delle cose che sono di una gravità, discreta. Secondo me si rientra per adesso, a parte questa storia di manifesti, delle frasi un po' assurde di Berlusconi, eccetera, si rientra nell'ambito di quello che ci ha offerto Berlusconi negli ultimi 15-20 anni in prossimità delle campagne elettorali. Cioè, questa è la, questa è la sostanza. Sì, vabbè, poi gli anni passano, i toni ritornano più forti, c'è la situazione giudiziaria che c'è la vicenda Ruby, eccetera, eccetera. Per cui insomma tutto contribuisce all'esasperazione dei toni. Ma mi sembra che se uno va a ripescare in occasione di ogni campagna elettorale, anche locale, dei comizi, degli interventi di Berlusconi, più o meno siamo su quella traccia lì. Cioè, lui si ripete. Si ripete, ma come mai queste cose qui, Cruciani, sono successe solamente in Italia nei secoli? Queste cose qui che succedono sono successe solamente in questo paese nei secoli, non nei secoli in Italia, nei secoli nel mondo. Vabbè, ho capito, adesso cioè, non, non facciamo paragoni. Io non la prendo sul serio, Cruciani. È ma vero. Non facciamo paragoni, cioè però, sulla no, sull'anomalia. Lui dice delle cose gravissime, Cruciani. Sì, dice ma delle cose ad una gravità sconfinata. Ma sciocchezza davvero, ma come si fa a dire delle cose lì? Hai capito? In questo paese si assorbe tutto. Ma no, ma non si assorbe nulla. Ma si assorbe, Cruciani. Dio buono, se no. Giovanni, ho capito cosa, cosa vorrebbe in alternativa al fatto che se ne discute, al fatto che ci sia comunque un'opposizione molto forte contro Berlusconi. Cosa vorrebbe di più lei? Ma non è un'opposizione molto forte. Ma guardi, come no? Ma come no? Anche su questo, Cruciani. Certe volte do ragione anche a Pannella, sono molto incerto, Cruciani, perché queste cose qui io in tantissimi anni di vita non le ho mai vissute. Non le ho mai vissute e le vivo ora e mi chiedo il perché. Vabbè. Questo perché mi sfugge, Cruciani. Cioè, però sfugge. Dorma la notte, caro Giovanni, dorma la notte, non si faccia troppe, troppe domande di questo tipo. Che mangia stasera? Mi faccia. Ma qui mi trattano da re, Cruciani. Ingelosire, mi faccia ingelosire. Un pesce al cartoccio con verdure. Un pesce che si chiama palamita. Ma sentito nominare? E come no, certo, la palamita. Poi forse. Io non avevo pesce mai a cartoccio, la palamita, ma mai mangiato. L'ho mangiato un paio di sera, è buonissimo. È fra il sapore un po' forte, no? Poi che c'è? È fra il tonno e il muggine, diciamo. Sì. Poi? È un po' così, con delle verdure al fuoco, anche quelle al cartoccio, mamma mia. E poi asparagi dessi, sono un principe, Cruciani. Vabbè, lo so. Però ogni tanto mi sveglio la notte e penso a queste cose per il nostro grande paese. Lo so, però Giovanni. Ma ammazzano, Cruciani. Però non si faccia prendere dalla passione, Cruciani, dall'angoscia. Queste cose qui, lo so che lei ha passione. È una essere persona in questo paese qui con queste persone, Cruciani. Non è mai successo, Cruciani, lei è più giovane, c'ha un grande vantaggio. Io ho un altro vantaggio. No, è che sono un po' cinico, io è diverso, sono un po' cinico. Sentiamo però Giuseppe da Milano. Sera. Buonasera, dica, signor Giuseppe. Buonasera, sono davanti a un risotto, siccome prima si mangiava. Che risotto? Che tipo di risotto? No, ho sbagliato, è un risotto con verdure, quindi è una cosa molto semplice. Non è che. È una cosa, no, sentivo un bellissimo pesce dal nome napoletano, e allora. Palamita, sì. Sì, con verdure al cartoccio, asparagi, eccetera. Questo è il menù del signor Giovanni, l'imbelvito da Pisa, che poi l'imbelvito ormai non si imbelvisce più, è stato soprannominato così per un suo esordio qui alla Zanzara ormai più di un anno e mezzo fa, se non due anni addirittura. Giuseppe, dica. Allora, tre cose veloci. La prima, io credo che la vostra trasmissione, non mi voglio collegare a nessuno, è sicuramente una splendida trasmissione serale che ci accompagna durante i viaggi, e quindi anche tutte le battute, le cose, le parolacce vanno bene perché sono in serata. Voglio fare parolacce, non esageriamo, non è che ogni sera c'è il turpiloquio qui alla Zanzara. No, lo dicevo semplicemente per dire che ci accompagna bene, ecco, no? Poi figuriamoci con le cose che si sentono e si vedono in televisione e per strada, non ci si scandalizza nulla più ormai. La seconda osservazione invece riguarda il legame o la carenza dal 92 della nostra politica, che praticamente nel 92 scappò prima ancora di essere cacciata dalla giustizia. E da lì credo che sia allora nato. Dico questo perché, ecco qui invece l'aspetto, la mia paura che ho rispetto a questa trasmissione, che ripeto è carina. Sì, qual è la paura? La paura è Qui c'è un problema di fondo che è la distanza tra la società civile. Ah, lei ha timore che questa trasmissione aumenti la distanza tra la politica e la società civile? Questa è la, glielo pongo come riflessione. Però, caro Giuseppe, io la ringrazio per le sue osservazioni, per i complimenti che ci ha fatto. Devo dire la verità che non mi pongo minimamente il problema, perché non credo assolutamente che una trasmissione radiofonica, qualsiasi trasmissione radiofonica, debba avere questo tipo di ruolo. Grazie, andiamo a Milano da Gianni, buonasera, restiamo a Milano da Gianni. Poi c'è un altro ascoltatore dalla provincia di Pisa, dove ci chiama Giovanni. Gianni, dica. Gianni? Non mi sente. Allora andiamo in provincia di Pisa, Marco. Sì, pronto, buonasera Cruciani. Prego. Volevo ricordare brevemente, a proposito dei manifesti di Lassini, che sono un modo molto rozzo di indicare un fenomeno, che negli anni 70, in seno ai movimenti marxisti-leninisti, si affermò un po' la strategia della infiltrazione, dell'occupazione dei posti di potere da parte del proletariato. Chi indicava in lotta continua il potere operaio di entrare in magistratura, nacque magistratura democratica. Scusi, questo Marco, pronto? Sì. Signor Lassini, ma perché ha fatto questo, ha fatto così? Guardi, a me non piace fare con le persone che non si presentano. Sono Cruciani. Lei è una persona intelligentissima. Lo so, anzi lo so, se me lo dice lei mi... Io stimo tantissimo. Perché? Voglio dire, era qui, come dire, era qui in tranquillità, in un ambiente tranquillo, senza problemi, capisco poi perché... Ma lo so, io la sento tutte le sere. C'è il diritto a non parlare, c'è il diritto a non parlare, per carità, insomma, assolutamente. Assolutamente, però mi dica. Pare che io non abbia il diritto a parlare. No, lei può fare quello che vuole. Detto questo, avevamo un appuntamento. Non succede. Non è colpa mia, guardi, sa con quanto mi dispiace. Io sono umiliato. No, per carità. Però vogliamo prendere un appuntamento per domani sera? O no? O c'è qualcuno? C'è qualcuno credo che. Credo di sì. Si può prendere. Però mi spieghi. Non è che io non sono comandato da nessuno, non comincio a dire chi le ha detto, chi. No, chi ma non lo dico, è lei che me lo lascia. No, ascolti. Me lo lascia capire, me lo lascia. No, scusi, non io. Mi sottovaluto. Ma perché io la sotto. Ma non la sto sottovalutando, è lei che me lo lascia, che mi dà l'occasione di dirlo. No, però. Il contesto, la situazione, un po' di fantasia, cioè non è che bisogna pensare per forza a un dittatico. No, ho capito, però siccome fino a 20 minuti prima andava bene, poi no, uno può capire, beh, qualcuno ha chiamato dall'alto, per carità, cose politiche. No, ma stiamo scherzando, ma sicuro, non c'è nessuna chiamata dall'alto, cioè sono io che sono anche un attimino disorientato adesso. No, certo, voglio cercare certo di capire se andare avanti, dottor Cruciani, guardi, veramente lei ha tutto il mio rispetto, veramente. Però scusi, so un attimo, lei conferma che in questo momento la candidatura c'è? Sì, io non intendo fare niente di diverso di quello che penso di dover fare, la mia campagna elettorale, la mia battaglia, eccetera. Dunque lei, nonostante Napolitano, il segretario regionale del partito... Sono imbarazzatissimo da questa situazione, però non so, prenderò una decisione, diciamo così, prenderò una decisione. Ma quando? Domani mattina? Nelle prossime ore? Prenderò una decisione. Vabbè, l'aspetto domani, l'aspetto domani. Grazie Cruciani. L'aspetto domani, grazie. Bene, la zanzara si conclude così. Giovanni! Grazie, Giovanni da Pisa, grazie. Te ringrazio io, Cruciani. Grazie, a domani 18:30. Ciao. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.